È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Sei ancora a casa? Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. A chi la vogliamo fare la punturina in apertura della zanzara? La punturina al sederino, a chi la vogliamo fare? Beh, oggi è l'ultima puntata, credo che se la meriteranno in tanti la punturina, eh? Iniziamo dal signor Gasparri, dall'amico Gasparri. Però, ho già nostalgia. Vabbè, è l'ultima puntata, tutto finisce, no? Tutto finisce. Lo so, tutto finisce. Cambia, todo però cambia. Però allora voglio dire soltanto una cosa prima di Gasparri. Sì, dimmi. Io vi amo. Io ti amo Giuseppe, io ti amo Squinzi, io ti amo direttore Tamburini, io ti amo Barisoni, io ti amo Confindustria, grazie a Riccardo Poli, grazie a Laura Marchesi, io vi amo! Gasparri il primo, Casini compagno di strada di chi è contro la famiglia. Addirittura Casini compagno di strada di chi è contro la famiglia. Ma perché la gente deve? Gasparri. Bersani si allea con Vendola e quindi la sinistra è sempre più sinistra. Casini vuol fare il compagno di strada di chi è contro la famiglia, di chi è contro la libertà dell'impresa. Il Popolo della Libertà propone scelte di chiarezza. L'hai guidata come un pazzo, fra scossoni e patatrac. Ora un piede ti fa male, il dottore ti dirà: basta fare una puntura e tutto passerà. Basta fare una puntura e tutto passerà. Signor Calderoli, Nord alzi i tacchi e se ne vada per conto proprio. È tornato il calda. Ci sono posti di lavoro e le famiglie non arrivano alla fine del mese e i partiti pensano a litigare su alleanze, coalizioni e legge elettorale. Io credo che il Nord farebbe bene alzare i tacchi e andarsene per conto proprio. Beh, direi punturina anche per il signor Vendola. Signor Vendola, qui non c'è solo il centrodestra, comunque gente riconducibile al centrodestra, perché le giravolte di Vendola in questi ultimi giorni sono clamorose. Prima, più o meno, al di là di quello che poi si è detto ufficialmente, si accorda con Bersani per far fuori Di Pietro e per aprire all'UDC, no? Poi sentite, Casini sarà un avversario, non un alleato. Punturina subito. E se Pier Ferdinando Casini immagina, diciamo, che l'orizzonte della politica debba essere l'austerity e il liberismo di qui all'eternità, è chiaro che Pier Ferdinando Casini sarà un avversario e non un alleato. Che ha detto l'austerity e il liberismo sfrenato? Ma chi è che vuole l'austerity e il liberismo sfrenato? No, purtroppo nessuno. Io forse il liberismo sfrenato io sì, però insomma. Infatti, però ma certamente non Casini, insomma, no, che liberista sicuro. Non è mai stato in vita sua, insomma. Massimo è stato democristiano, insomma. L'austerity manco. Ma parole inutili. Senti questa vendolata poi, sempre da punturina, organizzare la speranza oppure uscire dal gioco della tattica, entrare nel cantiere del futuro. La crisi della società italiana è tale che talvolta le parole della politica appaiono prigioniere di un vocabolario insopportabile, criptato, autoreferenziale. Abbiamo bisogno di parole autentiche, di parole nuove e abbiamo bisogno di uscire fuori dal gioco della tattica e di entrare invece nel cantiere del futuro. Eh sì, punturina anche per il signor Pardi. Signor Pardi. Di Pietro non ha detto mi candido premier, ma che l'Italia dei Valori si candida a guidare il paese. Perché? Pardi! Non si può, perché non si può costruire due centrosinistra. Vabbè. Però proprio perché non si può costruire 200 sindaci. Attenzione, Di Pietro non ha detto mi candido meglio a premier prima delle elezioni che dopo, comunque Di Pietro non ha detto mi candido a premier senza primarie come hanno titolato i giornali, non è così. Ha detto l'Italia dei Valori si candida a, a guidare una nuova ipotesi di governo. Guidare naturalmente va inteso in senso lato. Mi concedo la battuta un po' qui. Berlusconi, perché ci sbagliamo sempre a citare anche Di Pietro. No. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Siamo qui 800 24 00 24 per l'ultima puntata della Zanzara. Cari ascoltatori, mi scrivono, non piangere, mi scrivono da Livorno, ascoltare la Zanzara sdraiati in riva al mare non apprezzo. Alessio, caro Alessio, ti abbracciamo molto forte, no? Ti abbracciamo forte, scontro epico tra Pippo Baudo e Maurizio Gasparri. Beh, siamo al top qui, eh? Pippo Baudo innanzitutto dice: il Partito Democratico mi ha chiesto di candidarmi, e questa è una notizia che ha consegnato ieri, certo, ai cialtroni della Zanzara, sentiamo. Sì, mi hanno offerto di candidarmi alla Regione Sicilia, anche per la prossima elezione, questa di ottobre. No, per la prima volta dichiaro la mia incompetenza specifica, cioè non saprei governare, non vorrei essere governato da altri sotto banco, vorrei fare, che non sono, sono incapace io delle gestioni politiche, so che ci vogliono compromessi, per carità di Dio. Cioè, chi è che ha alzato il telefono e ha detto Pippo? No, non si può dire. Il militare del partito interno è un mio amico carissimo, non voglio dirlo perché non è giusto. Beh, qualcuno nel Partito Democratico ha pensato a Pippo Baudo per la Sicilia. Io dico, non dico niente, ma per carità di patria, no, non dico nulla. Dillo tu. No, la punturina andrebbe fatta a chi ha chiesto, con tutta l'autorevolezza che può avere il Pippo nazionale. Per carità, mica per lui, eh. Figuriamoci, no. Però se il PD, tra tutte le persone che ha proprio bisogno di Pippo Baudo, amici miei del PD, andiamo bene, eh. Intanto scoppia una ennesima guerra tra Baudo e Gasparri. Gasparri, ma lui Gasparri litiga con tutti, no. Non faccia far buono un attimo. Pure questo è vero, litiga con tutti, è il numero uno da questo punto di vista, eh. Sì, offre materiale infinito, cosa no, si farebbe? Cose bisognerebbe anche inventare un Gasparri. Assolutamente. E una volta Baudo ha fatto un'intervista in cui ha parlato dei serbi, o più o meno una parola simile, del PDL. Gasparri rispose in questo modo. Gasparri, 18 marzo. Guardi, si può invecchiare bene ed invecchiare male. Pippo Baudo a 75 anni vorrebbe andare ancora in video. Tutti a un certo punto ci dovremo ritirare, anche io, lei, chiunque. Pippo Baudo non fa audience e quindi scarica livore sul prossimo, non prendendo atto che quando io ero bambino già conduceva 7 voci. Ora stia un po' a casa invece di insultare le persone. È un conduttore finito, per farsi citare deve solo insultare il prossimo. Ma è una brutta funzione, gli consiglierei di invecchiare meglio. Baudo ieri qui alla Zanzara. Gasparri mi manderebbe al confino. Ma Maurizio è veramente un mio nemico storico. No, ma io non ho avuto mai un alterco motivato ideologicamente. Certo, ideologicamente non la penso assolutamente come lui, mai, però non dare questa sia una ragione per attaccarmi ogni più sospinto. C'era con me, Baudo deve andare a casa, meno male che ancora non esiste il confino, perché è stato eliminato, insomma lei c'era Ventotene oppure Roma o Ustica, gli piacerebbe tanto. Replica ancora di Gasparri, oggi nemico di Pippo Baudo, addirittura con un comunicato. Nemico di Pippo Baudo, ma quando mai? Mi occupo di cose serie. Aspetta. Nemico di Pippo Baudo, ma quando mai? Mi occupo di cose serie, non di vecchie glorie della lavaspettacolo. Alimenta polemiche perché non fa notizie e non si rassegna la pensione. Il posto per lui qual è? Rai Teche. Beh, devo dire che però non è male, come battuta. Rai Teche per Pippo Baudo. Continua la guerra. È con noi uno dei pochi comunisti ancora rimasti sulla faccia della terra, caro Parenzo. Chi potrà mai essere? Un nostro amico, però vediamo se lo capisci, eh. Parenzo? Beh, di comunisti tu sei molto affezionato in genere al signor Diliberto. Sì, diciamo un particolare affetto, sì, lo poi confesso. Sei molto affezionato a quell'altro, al comunista trotskista, al signor Ferrando in genere, sei molto affezionato. Beh, no, affezionato adesso a Ferrando non esageriamo. Sì, sì, sì, proprio affezionato a Ferrando. Oppure, essendo l'ultima puntata ed essendo questo dato di Confindustria, sicuramente è il nostro grande amico Paolo Ferrero. Ebbene sì, Paolo Ferrero è con noi, buonasera. Salve, buonasera. Come molto va, bene. Come va? Bene, bene, fa bel tempo, c'è caldo. Dove si trova, signor Ferrero? Russo, buonasera, come si dice? In questo momento sono in Umbria perché adesso farò un dibattito sulla crisi economica. Mamma mia, un dibattito sulla crisi economica? Mi sento male, solo a pensare a un... Ma mica perché c'è lei, Ferrero, per carità. Un dibattito sulla crisi economica il 3 di agosto in Umbria, c'è da morire. Sì, ma no, è perché la gente purtroppo, molta gente in ferie non ci va, sì, perché non c'è i soldi per andarci e quindi sta almeno a cercare di capire come li stanno fregando, diciamo. Lei dice domani che io sono da quelle parti con la macchina, passo con la macchina, se incontro la fila vicino Orte, vengo là col fucile, io dico subito. Lei mi dice che gli italiani non vanno in ferie, se domani incontro le file per strada la prendo a fucilate, glielo dico subito. Proprio secco. Va bene. Secco. Va bene. Allora, ovviamente ho il diritto di replica col fucile anch'io, diciamo. Beh sì, certo, ma non c'è dubbio. Scusi, intanto le do questo annuncio: il Billionaire, per la gioia sua e di Liberto, non chiude, cioè no, niente tritolo, non si può andare lì dentro a distruggere, cioè sì, potete portarlo sempre, come disse Diliberto, non so se lei era d'accordo all'epoca. Comunque le faccio sentire Briatore l'altro giorno da noi, perché qui noi invitiamo tutti, da Briatore fino a uno dei pochi comunisti ancora rimasti. Ma quanti sono secondo lei i comunisti in Italia, Ferrero? Ma comunisti di persone, uomini e donne, sono qualche milione. Qualche milione? Scritti un po' di meno. Sì. Qualche milione, secondo me. Lei va in giro e chiede, c'è molta gente che si definisce comunista. Ma no, qualche milione addirittura, su. Mettiamo? Siamo seri, dai. Allora, noi non vada in ferie, facciamo un giretto, partiamo dalla Toscana. No, purtroppo devo andare per forza, io sono. Io lavorerei sempre, io sono contro le ferie. Bisognerebbe abolirle, come dice Polillo. Come Polillo. Spero che non condivida con Polillo il livello del quoziente intellettivo, diciamo. Ma no, Polillo, guardi, no, guardi che Polillo è una persona molto intelligente. Lo giudica stupido? Lo giudica stupido, Polillo? Beh, diciamo che le uscite che fa non sono molto intelligenti. Uno che dice che bisogna tagliare le ferie, uno che dice che bisogna lavorare di più, quando invece il problema è che bisognerebbe distribuire il lavoro che c'è. Insomma, non mi sembra. Ma questa è un'idea comunista, quella di distribuire il lavoro che c'è. Ma come? Anche Keynes, che non era comunista, sosteneva che quando non c'era lavoro per tutti, perché la tecnologia ha aumentato la produttività del lavoro, si farebbe meglio a distribuirla fra tutti. Ma questa è un'idea da socialismo, da socialismo reale, è una cosa pazzesca. Comunque, guardi che è una buona idea. Secondo lei è una buona idea. Comunque, io, fosse per me, abolirei le ferie. Questa è la mia idea. Ferie abolite per 2 anni, così risparmiamo un sacco di soldi. Aboliamo le ferie. Ma non risparmiamo niente. Ma come no? C'è un mucchio di gente. Tutti produttività, quelli... produttività. Lei dove va in ferie? In Italia. E allora ci andrà ogni tanto al ristorante in un... Beh, sempre, veramente. Quelli, lei li farebbe licenziare tutti, vedi che farebbe perché? Un guaio. Perché? E perché se lei non ferie, che fanno? Servono a tavola a messa se nessuno? No, lei dice se non si va in ferie, poi, come dire, nei luoghi di vacanze non si spende, dunque molti sarebbero. Questa effettivamente non ci avevo pensato. Nel mio paradosso sulle ferie non ci avevo pensato. Comunque, intanto bisogna andare in ferie perché fa bene riposarsi. Sì, quello. Secondo, bisogna redistribuire il lavoro. Terzo, quelli che lavorano nell'industria delle ferie hanno diritto di comunque lavorare. Lei sostiene che in Italia ci sono diversi milioni di comunisti. Sì. Ma quanti? Cioè, sopra i 2 milioni, 3 milioni, quanti? No. Teniamoci bassi. Quanti? 2 milioni di comunisti in Italia. Ma no, ma non è possibile, Ferrero, su, c'è 2 milioni di gente che dice di essere comunista, a me non ci credo. Sa che ho addirittura visto un sondaggio in cui il 52 o il 53% della popolazione non ritiene la parola comunista ostativo a votare un partito se ne condivide il programma. Vabbè, quello è una cosa un po' bizzarra. Però vuol dire che nonostante 20 anni di cattivissima propaganda fatta in Italia contro i comunisti, molta gente continua a ricordarsi che tutto sommato quando i comunisti erano un po' più forti non si stava così male. Beh, guardi, devo dire una cosa, i comunisti nel mondo ne hanno combinate di tutti i colori, caro Ferrero, ne hanno combinate, caro Ferrero, di tutti i colori. Di tutti i colori, di buone e cattive. Ma beh, buone che... molte poche all'estero. Non è vero, guardi, se lei va in Russia adesso sì. E parla uno che è antistalinista da sempre. Si stava meglio quando si stava peggio, secondo ma lei? È del tutto evidente. Quindi, ma no, Ferrero, su. In Russia è diminuita di 7 anni l'età media. Cioè, ma no, ma sono raddoppiati gli alcolisti. Ma Ferrero, mi scusi, lei veramente posso di AIDS a ma prima non c'erano i dati, prima i dati non c'erano. A parte che prima quando c'era l'AIDS non c'era il comunismo, esatto. Quando è spuntato l'AIDS il comunismo non c'era più, per cui o comunque dopo erano gli ultimi anni. L'AIDS, meglio il comunismo. No, ma come no, no. No, ma adesso mi dica la verità, lei davvero può sostenere che in un paese come la Russia si stava meglio col comunismo? Assolutamente sì. No, no, ma è insostenibile. Non lo dico io, Ma come non lo dice? Lo dicono i comunisti russi, certo. Tutti, no, ma a parte il fatto che i comunisti russi continuano a prendere più del 20%, dice che qualcuno continua a pensare, nonostante i brogli, le truffe, i furti, perché le elezioni in Russia, diciamo, sono una specie di gara, diciamo così, no? Non esattamente regolare. Ma ripeto, io non ho mai pensato che quello fosse comunismo, ma quel sistema lì, che comunque garantiva un certo livello di servizi, di standard, di lavoro, era meglio dello schifo che c'è adesso, ma in cui c'hai gli oligarchi ipermiliardari che vanno in giro con le barche da 200 metri. Ma che c'è? C'hanno dei transatlantici. Ma quella è la ricchezza, è la modernità, è il capitalismo. Ma no, quelli hanno privatizzato tutte le industrie pubbliche per quattro soldi e se li sono pappati Yeltsin e i suoi amici e adesso Putin e i suoi comunque amici. Comunque io dico una cosa, io adoro Ferrero perché in fin dei conti è meglio lui di Vendola, adesso lo dico qua pubblicamente, ma uno come Vendola alla fine la pensa come Ferrero, diciamola tutta, insomma, la pensa come Ferrero, e però fa finta, non lo dice, eccetera eccetera. Io, almeno quello è una cosa. Scusi, quando inizia questo dibattito, questo grandioso dibattito in Umbria sulla crisi il 3 di agosto? Scusi Ferrero, no, non per... appena finiamo di stare qua alla radio, infatti c'è già un po' di gente che mi guarda male e dice quando è che la smetti di stare al telefono? Allora, però noi abbiamo degli obblighi. Facciamo la cosa fino in fondo, però la faccio io. E qual è la cosa? Voglio fare la marchetta. Ferrero ha scritto questo libro sulla crisi e presenterà questo, immagino, no? No, ma chi se ne frega del libro? Su, Parenzo, perché vuoi fare la solita marchetta? Tu quando c'è un ospite, la prima cosa che pensi è fare una marchetta. Possibile mai? Ma suoliamo. Però intanto facciamo la marchetta. Comunque qualcuno mi dice, un amico, non leggerlo, punturina subito, la Russia di oggi, i russi stavano molto meglio con il comunismo, lo dicono i dati, punturina immediata per il signor Ferrero. Comunque i suoi colleghi, non so chi ci sia lì, di questo convegno sulla crisi in Umbria, aspetteranno tre minuti. È un'assemblea popolare, nel senso che c'è l'assemblea popolare. Adesso non esageriamo. Nel senso che ci sono pensionati, giovani, operai, lavoratori, cioè la gente che esce dal lavoro, perché c'è anche gente che lavora e che ci si vede. Faremo tra le 7:15 e le 8:00 meno un quarto. Oh, perfetto, perfetto. Cena assieme, uno splendido modo di far cultura. Molta gente continua a ricordarsi che tutto sommato quando i comunisti erano un po' più forti non si stava così male. Basta fare una puntura e tutto passerà. Eccoci qui, la Zanzara delle 18:33, caro Parenzo, in collegamento da Asiago. Ho visto delle foto bellissime, sei sotto una specie di tendone. Beh, il giardino di casa. Imperverseranno le zanzare, sicuramente, quelle vere. E poi Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Beh, caro Ferrero, qui bisogna parlare della vicenda Vendola, No, non è che si può sfuggire a questa cosa. Ha tradito. Innanzitutto io vorrei capire, lei ha capito che cosa è successo? Perché Vendola prima, diciamo che ha fatto questo incontro in cui accordo col PD per trattare con l'UDC, insomma apertura all'UDC con l'esclusione dell'Italia dei Valori. Di voi manco hanno parlato perché vi considerano evidentemente incompatibili. Dopodiché si è tirato indietro, ha detto no, Casini, non ho mai detto una cosa del genere, vorrei che Di Pietro fosse nel centro-sinistra, sarei addolorato, eccetera. Ma insomma, sto Vendola, si può dire ancora di sinistra secondo lei? No, Vendola è sicuramente di sinistra, però a me sembra che non abbia smentito nulla. Cioè lì c'è un progetto che è quello presentato da Bersani, di mettere assieme sia l'UDC che Sinistra e Libertà. Sì. Vendola ha detto che ci stava su questo progetto, che era d'accordo e che non poneva veti su Casini, il che implica il fatto che se Casini è d'accordo ci sta pure lui. E quindi a me sembra che la cosa è abbastanza semplice. Poi che gli dispiaccia, che non ci sta Di Pietro, che posso immaginare che è vero, ma non sposta di un millimetro il fatto che il Partito Democratico ha chiesto a Sinistra e Libertà e all'UDC, e Sinistra e Libertà ha detto di sì, quindi quello è il progetto. Ecco, ma non è un po' un traditore di alcuni principi, di alcuni valori, secondo lei? Si può chiamare... No, io non uso queste terminologie, diciamo... No, ma le usi, che... se le sente, se ma le... No, penso che sbaglia brutalmente, perché è del tutto evidente che in una coalizione di questo tipo il Partito Democratico e l'alleanza con l'ODC la fanno da padrona, e quindi quella è una coalizione che proseguirebbe le politiche del governo Monti, che stanno producendo un disastro. Ma loro dicono di no, loro dicono di no. Bersani stesso dice di no, che vuole fare un'altra politica, lì anche lì un'altra confusione su confusione. Però mi sembra che c'è furbizia, perché è del tutto evidente che il governo Monti, con i voti determinanti del Partito Democratico, sta prendendo delle posizioni che non è che durano 3 mesi, dureranno nel tempo. Ad esempio questa cosa del fiscal compact. No, per carità, non voglio sentire il fiscal compact. Non mi parli del fiscal compact. No, ma quello vuol dire 45 miliardi di tagli ogni anno per 20 anni. Ora, magari. O uno lo mette in discussione, oppure le finanziarie dei prossimi anni sono già scritte. È come se Monti avesse messo un binario. Vabbè, ma adesso dovrà viaggiare il treno. La sua posizione su Monti è abbastanza chiara, nota, arci nota. Ma al di là di questo, io vorrei capire, Vendola, lei come lo giudica? Un compagno che sbaglia, uno che vuole solo le poltrone? Mi dica la verità, uno che vuole solo una poltrona, perché alla fine vuole andare in Parlamento, questa è la realtà. Vuole entrare in Parlamento con Sinistra. Non credo che ci sia un problema individuale. Penso che fa una politica sbagliata, perché la motivazione di sinistra alla fine si ritrova con alleanze che faranno politiche moderate. Ma questo a me è la cosa che interessa. Il problema è che se si continua con queste politiche l'Italia sta andando al disastro. Ma ce lo vede con Buttiglione lei? Ce lo vede con Buttiglione? Col signor Buttiglione? Vendolo e Buttiglione a braccetto, non lo stesso governo? No, a braccetto no, ma temo che questa è la strada. Perché La coppia di fatto. Io non so se cambieranno la legge elettorale oppure no. Vedremo. Ma se c'è questa legge elettorale, è del tutto evidente che al Senato non vince nessuno da loro. E che quindi, anche se non fanno l'alleanza prima, si ritrovano a farla dopo l'alleanza con l'UDC in questo caso, e quindi che il governo comunque la prospettiva di un governo PD UDC senta lei che sigla è veramente un errore drammatico e mi dispiace molto, perché Vendola se n'è andato da Rifondazione alcuni anni fa, e a me sembrava che avesse preso la strada moderata. Certo, non immaginavo che venisse, diciamo, su un percorso di questo e tipo. Finisse con Casini. Vabbè, Parenzo, un attimo solo, voglio chiedere che sigari fuma a Ferrero. Toscani quali? L'extravecchio, ogni tanto quando ho qualche soldo in più l'antico, che è migliore. L'antico è migliore, sì, non c'è dubbio, l'antico è migliore, anch'io lo fumo, qualche soldo in più, adesso non mi dirà che... Tu sai che Ferrero è uno dei pochi veri anticlericali, proprio in modo viscerale. Sì, anche perché... Non va neanche dentro le chiese. Perché è valdese, sì, come nemmeno dentro le chiese, che vuol dire? Non visita le chiese, vabbè, si trova noiose. Scusi, lei non visita le chiese, vai in vacanza, non visita le chiese? Non è vero, se ci sono opere d'arte che le visite. L'ultima che ho visto è il Sacro Speco di Subiaco, bellissimo. Vabbè, allora non è vero, perché Parenzo dai sempre notizie? Perché una volta vi aveva detto che lui le chiede, c'è di meglio da vedere. Comunque il paradosso è che Bossi fuma i sigari Garibaldi. Questo è un gran paradosso. L'altro giorno ce l'ha rivelato il figlio. Fuma i sigari Garibaldi, dovrebbe smettere. A me non piacciono tanto. I Garibaldi non le piacciono, eh? No. Lei una volta ci ha detto che non le piaceva, non le piace Parenzo, nemmeno la droga. Sì. Ma Parenzo, lo spot al mio libro lo fa o non lo fa? No, che spot? Qui non vogliamo spot. Senta, lei che è a favore della legalizzazione della droga leggera, non si dovrebbe legalizzare anche, che ne so, l'eroina, anche quella pesante? Facciamo dei bei parchi come fece una volta a Zurigo, che ne so, per la somministrazione controllata dell'eroina. Che dice lei, Ferrero? Ma io su quella sono d'accordo, come ebbi già modo di dire, però non c'entra niente con la liberalizzazione. Con la legalizzazione, un conto, no? Un conto sono le droghe leggere, sì, che in cui la gente in qualche modo può controllare che cosa fa. Sì. e viceversa sarei totalmente contrario a liberalizzare le droghe pesanti, perché lì uno ci prova, dopo due o tre volte è complicato uscirne. Quindi lì io sono semplicemente per però le stanze del buco, le stanze del buco le farebbe, quello fu un esperimento fatto. Le stanze del buco è un'altra cosa, vuol dire che uno è certificato che è tossicodipendente, sì, e invece che stare in giro per le strade o magari a scippare le vecchiette per della dose, c'è un posto dove gli fanno a orario preciso e dietro presentazione della cartella clinica la dose, ma quello è un modo per evitare danni a lui, appunto l'AIDS e altre cose, e agli altri su una patologia, ma non c'entra niente con la legalizzazione, certo, perché in giro. Va bene, sarebbe grazie. Un modo un po' più civile di quello che c'è. Che c'è in molte metropoli, purtroppo. Come abbiamo visto anche a Firenze l'altro giorno sotto un ponte. Grazie, saluti Ferrero. Saluti dalla Confindustria e auguri per questo convegno del 3 agosto sulla situazione economica italiana. 18:40 800 24 00 24. Michele dalla Spezia, buonasera. Oh, buonasera, Giuseppe Cruciani. Vada. Senta, io avevo intenzione di fare un intervento molto vecchio su Orlando, però dopo questa bella punturina che lei ha fatto a Ferrando e a Vendola. No, non era Ferrando, lei ha sbagliato, Ferrando, Vendola, era Ferrero, un altro. Oltre al puntulino a Vendola, siccome sono barese, vorrei dire a Vendola, ma parla come mancia, non si capisce nulla, figme. Com'è la storia? Com'è in barese? Scusi, ma lei non chiamava dalla Spezia, peraltro, ma è barese. Sì, ma posso essere barese o no? No, per carità. Com'è che si dice in barese a... Parla come mangi, perché non si capisce nulla quando parla, ma ci danno fatto da quando il creatura, ma è una cosa indegna quello che dice. Vabbè, indegna adesso, indegna. Ma è un saltimbanco, perché uno non può dire una cosa e poi dopo 10 minuti dirne un'altra e far passare noi che non siamo degli deficienti, che non capiamo il suo lessico. Capisci? Essere presi. Ma com'era la storia, quella che ha detto all'inizio, com'era? Parla come mangi. Ma allora, un attimo, parla come mangi. Ma lo dica in faccia a Vendola. Vendola, parla come mangi. Non si capisce nulla quando parlo, me. Michele. Le devo dire un aneddoto. Sì, è la sua forza anche questo parlare in maniera aulica, barocca, no? Che fa sognare. No, perché, vabbè, però, modestamente, è anche umiliare la gente che non capisce il suo linguaggio. Secondo me è una spocchia che lui si dà perché non può dire altro. Io le devo dire un aneddoto. Lui si è scoperto di essere anche cattolico è legittimo, anche se comunista. C'è una contraddizione in termini tra cattolico e comunista, perché il comunista solitamente è un ateo, e io stimo più le persone che sono coerenti rispetto a una fede politica. Ma Vendola deve sapere che quando non era ancora eletto l'orecchino non lo metteva. E quando si è presentato in televisione, se lo toglieva, sa quando si è messo l'orecchino ufficialmente? Quando? Il giorno in cui è diventato presidente della regione. Vabbè, ma chi se ne frega, però, Michele, scusi. Ma la dimostrazione... No, però, lei è una persona intelligente che io stimo... No, Parenzo, non dica stupidaggine a me, perché lei dice tante a livello industriale. Quindi, per cortesia, mi faccia finire. Sono stato 3 ore ieri ad aspettare, oggi mi faccia finire. Ma le pare una roba intelligente da dire che se messo l'orecchino diventa presidente della regione? Ma dove vive? Ma non mi dà fastidio, l'utilizzo del mezzo. Ho capito, ma scusi, qual era l'obiettivo mediatico di mettersi l'orecchino? Perché uno, se si mette l'orecchino, piglia più voti, non ho capito. Io l'ho letto così, siccome doveva andare comunque in ambienti dove probabilmente questa cosa poteva dare fastidio, lui non se lo metteva. Nel momento in cui è stato eletto, si è messo. Quindi io lo vedo come una mancanza di coerenza. Lui non si deve vergognare se si mette l'orecchino. Ma quante sciocchezze. Vabbè, eccola là. Eccola, ha detto una sciocchezza, mi dispiace. Parenzo, lei mi cominciava a diventare quasi simpatica all'ultima cosa. Ma com'è? Io voglio sapere cosa direbbe in faccia di nuovo, lo voglio risentire di nuovo, che era straordinario. Cosa direbbe in faccia a Vendola? Me lo dica. Ma lei mi trattiene su una puttanata e mi fa dire la cosa più seria. Ma che seria, le puttanate sono le cose più belle, dica. Vabbè, mi piace questa trasmissione perché... Dica, Michele, lei ha di fronte Vendola, cosa direbbe a Vendola? Avvendole anche a quell'amico suo Franco che vuole farlo come fede e toglierlo di mezzo, vabbè, la punturina. A tutte e due dico, siete due cristiani che non capiscite nulla. Beh, siamo al top. E avvendo gli dico, parla come mangio, non si capisce proprio quando parlo, figlio mio. Ma ci danno fatto da creatura. Grazie, allora, grazie, basta, basta, grazie. Sarebbe, sarebbe possibile sapere quanto guadagna a puntata il signor Parenzo? Mi chiede un ascoltatore via Twitter. Che te frega dei soldi che guadagnano gli altri? Eh beh, qui la risposta è d'obbligo, esatto. La risentirei anche, la risentirei. Che te frega dei soldi che guadagnano gli altri? E che ve frega a voi dei soldi che guadagna Parenzo? Ma Parenzo l'ho pagato o lo fa gratis? No, lo paghiamo, lo paghiamo. Stefano da Milano, buonasera. Volevo dire, riguardo alla coppia omosessuale, eccetera, di dargliela la famiglia, perché ormai si parla di famiglia ma non si sa di cosa sta parlando, perché la famiglia italiana è un disastro. Io ho ovviamente moglie, tre figli, e quindi con questi tre figli ho grandissima esperienza di compagni di classe, di scuole, dove ormai le famiglie separate sono più del 50% di quelle totali. Io oggi ancora non avevo affrontato la questione degli omosessuali, perché me la introduce lei, Stefano? Comunque vada, vada, dica pure. Me la introduco perché mi è stato... È da no, ieri ma non si parlare. Preoccupi, non si preoccupi, vada, vada. Quindi vorrei dire, diamogli la famiglia, perché la famiglia vuol dire responsabilità. E quando si è omosessuali non si ha questa responsabilità, non si capisce cosa vuol dire. Avere figli, avere famiglia, vuol dire avere grandi responsabilità. Essere coppia omosessuale è un po' come essere nell'adolescenza dell'amore. In che senso, nella scusi? Di, nel fatto che essere coppie e non potersi unire in maniera definitiva, in maniera vincolata, vuol dire essere in fondo liberi, vuol dire essere comunque, potersi lasciare anche quando si vuole, amarsi perché ci si vuole bene, stare in piedi insieme perché si vuole bene, non perché si ha la responsabilità. Ma lei lo sa, ad esempio, che la grandissima Gianna Nannini ha fatto un figlio in provetta e sta con, non so se in provetta o come, insomma ha fatto un figlio e sta con la sua compagna, la signora... Ha fatto bene, ha fatto benissimo. E che cosa vuol dire che non c'è responsabilità? Ma di che cosa parla? Parlo della mia responsabilità, dei miei tre figli, io sto per separarmi. E so cosa vuol dire restare insieme a un'altra donna con la responsabilità di crescere dei figli. Ma che c'entra? C'entra, diamogli questa responsabilità. Io non capisco chi dice la famiglia per i figli, eccetera. Queste famiglie stanno scoppiando, i figli stanno vivendo delle cose, ripeto, vabbè. Lo so perché lo vivo. Sì, sì, ho capito. Quindi, guardi, io resto della mia idea. Guardi, questo intervento e altri interventi mi fanno convincere ancora di più. Perché avevo e ho dei dubbi che l'adozione per le coppie omosessuali è una cosa che non è particolarmente drammatica. Ci sono famiglie dove i figli crescono male, anche in coppie che stanno insieme per 50 anni, per vari motivi, possono crescere benissimo anche nelle coppie omosessuali. Fra poco una persona, grazie Stefano, una persona che qualche giorno fa se ne è uscita in questo modo. Comunque lei si dimette, questo lo so con certezza, cioè lo so assolutamente, cioè fonte diretta, non ti posso dire chi, ma lo puoi immaginare, so che lei praticamente si è già dimessa. E se non sarà così, lunedì mi autorizzo a prendermi in giro per 40 minuti sulla Zanzara. Basta fare una puntura. Caro Vittorio, noi ti abbiamo un po' risparmiato. Pronto, 40 minuti di presa per i fondelli. No, ti abbiamo un po' risparmiato, ti abbiamo un po' risparmiato perché volevamo aspettare una settimana, 10 giorni, visto mai. Io però voglio capire una cosa, chi è, a questo punto si può rivelare, che ti ha detto che la Minetti sicuramente si dimetteva? È quel cialtrone. La fonte è Berlusconi. Ah, Berlusconi. Ah, sì. Direttamente. Fonte Berlusconi, e quindi non mi stupisco che poi le cose siano andate diversamente. Cioè, però... stai dicendo che Berlusconi è un bugiardo matricolato? No, è che io ogni volta ci casco, no? Cioè, ci caschi nel credere all'uomo, dici. Comincio a pensare che Berlusconi sia sincero soltanto quando mente. Cioè uno deve e come fa uno però a sapere se è una menzogna? È difficile però sapere se è una cazzata o no, capito? Se... infatti vedi che anch'io ci sono cascato, anche se devo dirti che sicuramente la Minetti non ha voluto dimettersi in quei giorni perché sarebbe stato per lei come accettare un diktat, una resa, sì. Certo. Però si dimetterà di sicuro. Adesso non dire di nuovo di sicuro, ti prego. Non dire di sicuro di nuovo. Perché la mia speranza è che rimanga lì fino alla fine, capisci? Anche la mia, devo dire la verità. Anche la nostra. Anche la nostra, però è vero, sta trattando, diciamola anche brutalmente. Anche ricandidata. Ricandidata no. Beh, ora ha fatto esperienza. Sì, effettivamente dopo 5 anni di esperienza sarebbe pronta, a maggior ragione. Però sta trattando, diciamola tutta, Vittorio, sta trattando brutalmente, come è giusto che sia. Cioè... gliel'abbiamo anche consigliato noi proprio sì. alla Zanzara, gli abbiamo detto, mi raccomando, non andartene così gratis, ricordati di passare la cassa, eccetera. Senti, ma secondo me, perché... Berlusconi dice tutte queste cose, appunto a te dice guarda è sicuro si dimette, perché dice... credo che lui sia convinto quando dice certe cose, dopodiché credo però poi sono cazzate, ecco, questa la verità. Si rivelano quelle che quante, sono quante, in percentuale quante cazzate dice Berlusconi in percentuale proprio di quello che dice, quante ne dice? Bene, dice una quantità industriale, 90%. Ne ha dette tante, poi ne ha anche dette alcune giuste, alcune buone. Vabbè, quello certo. E purtroppo quando poi dice quelle buone tu non lo sai e pensi che siano cazzate. E invece quando qualche volta pensi che siano cazzate, poi sono buone. Figlio, tu devi tornare questa volta. Intanto impazza il Toto Baudo, chiamiamolo così, dopo le rivelazioni di ieri alla Zanzara di Pippo Baudo, che ha detto il Partito Democratico mi ha offerto la candidatura, è una cosa pazzesca. Tutto quella che finito. È successo. Il PD che offre la candidatura a Pippo Baudo per fare il governatore della Sicilia, vi rendete conto o no? Tutto finito. Però approfittiamo della presenza di Feltri per fare... Senti il telefono che squilla, non è la Minetti, Vittorio, stai tranquillo, non è la Minetti, aspetta. Penso io. È una cosa che riguarda il giornale, senti che abbiamo combinato, che stiamo combinando, vediamo se riesce. Passatempo, buonasera. Sì, buonasera, sono Davide. Ho letto di questa crociera che sta promuovendo il giornale che io leggo ogni giorno, sì. tra Italia, Grecia, Turchia e Croazia. Sì. Ecco, volevo sapere se era possibile prenotare una stanza, adesso vedo il numero di carta di credito, però ho visto che c'è il direttore Sallusti, no? Sì. Ecco, ma c'è anche, c'è Sallusti, c'è di sicuro, perché non vorrei che, io voglio venire. Sì. Ho visto che c'è questa roba, però ho visto i nomi, volevo sapere allora, se era confermato. Allora, i nomi che sono scritti sul giornale naturalmente sono confermati. Cioè, bisogna sempre tenere in presente che sono persone che comunque hanno vari impegni lavorativi, quindi ecco, però ad oggi vi confermo che sono presenti. No, volevo sapere perché ho visto che c'è il grandissimo Mario Cervi, che sì, io me lo ricordo quando. Sì, glielo confermo. Paolo Granzotto. Poi c'è quello che ho letto adesso, perché poi voglio prenotare, adesso le do, Franco, mi porti la visa per cortesia. Poi ho visto che c'è anche Berlusconi, c'è scritto a bordo. Sì. Ma è sicuro che c'è Berlusconi? Assolutamente. Ah no, vabbè, e Sallusti sicuro? Ovviamente... Confermati, sì. Ad oggi sono entrambi confermati. E anche Ariel Feltri? Sì. Ah, ottimo. Tutte e Macioccio c'è? Non ho capito, mi scusi, ma la sento veramente lontanissima, tra l'altro. Ah no, scusi, perché sono dal cordless. Macioccio c'è, signor Macioccio? Pronto? Sì, pronto. Sì. Sì, no, quindi confermato che c'è Berlusconi e c'è anche Sallusti, direttore. Glielo confermo. Allora benissimo, senta, io volevo partire da Vuole da fare la prenotazione, quindi? Volevo venire da Venezia, volevo una camera però bella che sono col mio compagno, non penso che sia un problema. No, assolutamente. Siamo una coppia, c'è anche Giuseppe, siamo io, Davide e Giuseppe, siamo insieme. Non c'è nessunissimo problema, no, mi serve solo che mi date i vostri nominativi. Non occorre che il letto può essere matrimoniale, sì, non è un problema. Ma sì, tanto non c'è problema. Le ripeto, non ci sono assolutamente problemi. Di cioè, il fatto che siamo omosessuali va benissimo. Sì, certo. Ah, ecco, no, vabbè, chiedo che magari che problemi ci sono, non serve neanche che me lo dica. No, ma io lo dico perché magari uno dice, è una crociera dove non ci può, può creare qualche imbarazzo se ci teniamo per mano, però assolutamente siccome... Assolutamente no, non credo il proprio. Il mio compagno anche legge sempre il giornale, per cui... Non ci interessa questo, da questo punto di vista non ci interessa, ripeto. Vabbè, allora io volevo chiedere, guardi, però ho visto i prezzi diversi, che c'è una cabina, posso avere una cabina vicino a Sallusti? No, allora, tenga presente che essendo un viaggio di gruppo... è un regalo per Giuseppe, siamo insieme da un anno, vogliamo celebrare questa cosa. sì, mi può fare, gentilmente mi può far finire di parlare? Ah sì, scusi. Allora, le stavo dicendo che essendo una un viaggio di gruppo, noi garantiamo la tipologia della cabina, quindi sarà garantito se lei sceglie un'interna, l'interna, esterna o esterna col balcone. I numeri delle cabine però verranno comunicati più avanti. Non è naturalmente fattibile segnalare piano alto, piano basso, prua, poppa, tutto quello che vuole, sono comunque sempre segnalazioni che non vengono poi naturalmente garantite. No, guardi, vabbè, allora, perché le ripeto, è un regalo, adesso le do la carta di credito così fissiamo tutto. Volevo una stanza con il balcone, perché così poi ci mettiamo anche sul balcone. Da Venezia, mi ha detto? Da Venezia, sì. Però, ok, se mi serve un cognome e nome a quintessare la pratica. Vicino, almeno nelle vicinanze di Sallusti, perché sennò se è una crociera non lo vediamo mai. Non posso garantirle di mettere la cabina vicino a Sallusti, mi dispiace. No, non dico vicino a Berlusco, vicino a Sallusti, poi mi trovo vicino a Macioce, magari che gli voglio anche bene a Macioce, però... Stacchiamo la spina e torniamo a votare. Devo dire la verità è che ci stavi quasi riuscendo. Vittorio, ma tu non ci vai con Sallusti in crociera? Guarda, io già Sallusti lo vedo tutti i giorni qui al giornale. In crociera non lo vorrei risparmiare, giusto, sicuro. Però scusa, la vera notizia l'ho appresa un attimo fa ascoltando Parenzo, sì, è che tu sei omosessuale. No, è uno scherzo, dai. Ma mi sono spaventato e ho detto, ma oddio, anche lui. Noi amiamo le donne. Avevo notizie diverse su di te. Però sarebbe stupendo, anche Feltri non ci pensa nemmeno lontanamente a mettere piede su una nave da croce. Sono mai stato in crociera, quindi non penso che comincerò ora. Sei ancora a casa? Siamo ancora qui per l'ultimo giorno. Mettiti a piangere, Davide. Piangi. Chi parla, Parenzo? Ma torneremo? Luciani, che ci sta a fare, Parenzo? Chi è questo? Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Ma è vero che lo paghiamo? Ma Parenzo, lo pagate o lo fa gratis? Ma che vi frega a voi se lo paghiamo o no? Che vi importa? Che vi importa a voi se lo paghiamo o no? Questa è la Zanzara, riprende così alle 19.17 i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Dopo il tonfo di ieri, oggi super venerdì per i mercati, vola Milano più 6%, lo spread a picco, il fondo monetario, fare di più per bloccare la crisi. La Spagna apre un possibile piano di aiuti dall'Europa, abbiamo 900 miliardi di debito, dice il premier Rajoy, ma prima voglio capire cosa farà la Banca Centrale Europea. Monti esclude la richiesta di aiuti, ma non di ricorrere allo scudo antispread. Passera, siamo ancora in una situazione di incertezza, via al decreto sviluppo. Alleanze confrontano il centro-sinistra, Bersani porte aperte a chi è per l'Europa e contro i populismi, Vendola, Casini non c'è, il leader UDC tace ancora. Decreto del governo per l'Ilva di Taranto, sbloccati 336 milioni per la bonifica del sito, attesa per la decisione del riesame sul sequestro. Calcio scommesse, chiesta maxi squalifica per lo Juventino Bonucci, 3 anni e 6 mesi, un anno di stop anche per Pepe, Conte convocato dai magistrati di Bari. Sconfitti dalla Corea gli azzurri della sciabola, si battono per il bronzo mentre le Olimpiadi applaude la prima atleta saudita in gara con il velo. Silvio, tu devi tornare, la culona ci vuole spalpare, per colpa dell'euro non puoi svalutare, noi vogliamo tornare a stampare, questo Monti ci vuole preparare. Siete in linea con Passatempo, gli uffici sono chiusi, vi preghiamo di richiamare dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 dal lunedì al venerdì, grazie. Parenzo, mi sa che se ne parla poi ad agosto per la tua prenotazione. Volevo prenotare il viaggio con Sallusti sulla crociera. Pippo Baudo di ieri. Berlusconi, una minestra riscaldata. È una minaccia, è una minaccia. E dice, posso anche tornare. Vorrebbe che tutta l'Italia stasse in piedi e dicesse torna, come la vecchia canzone, torna vincitore. Vorrebbe appunto questa mozione d'affetto di tutta l'Italia, che difficilmente si muoverà in questo senso. E minestra riscaldata, si dice nel mio paese. Ha sbuffato pure, una minestra riscaldata. Cose incredibili. Pippo Baudo non molla, la televisione entra nelle vene, non accetti di essere messo da parte. Quest'età poi, sai, nei miei confronti c'era un momento di stasi, mi sentivo quasi un esiliato, sai, quando il telefono squilla c'è sempre un motivo. Questa è una passionaccia, quando ti entra nelle vene è veramente una droga. Quando poi ti senti bene fisicamente, anche mentalmente, non accetti l'idea di andare in, di essere messo da parte, non l'accetti proprio psicologicamente. Manda a casa sto governo che è peggio dell'inferno. Ma Parenzo, l'ho pagato o lo fa gratis? 51% arriverà. Però, come dice Vendola, bisogna organizzare la speranza, eh? Organizzare la speranza! Organizzare la speranza! Ci sono momenti in cui la politica deve esprimere idee ed essere in grado di organizzare la speranza, soprattutto delle generazioni più giovani. Io credo che questo sia quel momento. Organizzare la speranza. Questo momento. 800 24 00 24. Paolo, provincia di Ancona, carrellata di ascoltatori, siamo qui, non molliamo, ultimo giorno, poi si vedrà. Paolo. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ho chiamato perché ascoltavo come quasi di sera la vostra trasmissione e sentivo, sì, Ferrero in qualità di comunista. Sì. Io ho telefonato per dire che sono un anticomunista, visto che io magari indirettamente, però il vero comunismo l'ho vissuto in famiglia. Il vero comunismo intanto è questo, è il vero comunismo. Molta gente continua a ricordarsi che tutto sommato quando i comunisti erano un po' più forti non si stava così male. Ha capito Paolo? Sì, sì, certamente, però se magari Ferrero avesse perso la casa, una tabaccheria, avesse perso il padre, fosse dovuto fuggire addirittura all'estero, magari forse ci sarebbe ricreduto. Sta parlando di suo padre? Allora, mio padre è dovuto fuggire dall'allora Jugoslavia, ha dovuto lasciare tutto, la sua famiglia. Ma guardi che ci crede solo Ferrero a questa cosa qui, che mentre quando c'era il comunismo, se ci fosse stato il comunismo in Italia si sarebbe stato meglio. Sarebbe stato però il fatto che ce ne sono ancora tanti, dice lui. Che non conoscono. Va bene, grazie Paolo. Carmine da Como, buonasera. Buonasera, senta Cruciani, il mio intervento è diametralmente apposto a quello precedente, no? Sì. Innanzitutto specifichiamo che quello che è successo nei paesi dell'ex Jugoslavia. Sì, adesso non vogliamo qui intavolare un dibattito sui paesi dell'est. Le motivazioni erano di tutt'altra natura. Sì. Chiamando, cioè, durante la chiacchierata che lei faceva con Ferrero, a un certo punto lei obiettava sul fatto che non era vero che nei paesi dell'ex Unione Sovietica si stava bene. Io, avendo sposato una donna russa 14 anni fa, c'era la dittatura, lo vuole capire o no? C'era la dittatura. Allora, ascolti bene, Cruciani, qui bisogna smetterla di ritenere i cittadini, le persone che provenivano da quelle popolazioni, no? Degli idioti, in cui la dittatura gli faceva credere tutto, mentre qui non. No, ma non è questione di idioti, io ho detto che c'era la dittatura, c'era uno stato medievale. Ma di cosa sta parlando, Cruciani? Allora, lo stato medievale consentiva e garantiva ai cittadini russi un livello di vita media nettamente superiore a quello che vivono oggi. Ma quando mai? Ma quando mai? No, allora perché? Ma secondo quali dati assurdi? Secondo quale criterio? Quali dati assurdi? dati concreti negli ospedali. Ma di cosa? Ma non si può fare un paragone, ma non è vero, non è vero, è falso, è falso. Lei parla come tutte le persone in modo preconcettuale, e cioè non avendo vissuto in modo preconcettuale. Cioè, lei vuole dire che in Unione Sovietica si stava meglio rispetto... Certo, ma non lo dico io, non lo dico io, lo dicono... Guardi, io mi vorrei fare una bella risata, ma... Questa sì, è la signora, sì, la signora Assunta Almirante. Allora vi spiego subito una cosa. No, se vuole le regalo un Dell'Utri, non è un problema. Dell'Utri? Ma sì, è chiaro, Dell'Utri è un altro... siamo proprio a massimo. Cioè, il signor Dell'Utri, sappiamo benissimo come riuscire a fare la carriera politica qui in Italia, ma lasciamo stare le vicende. Com'è che lei com'è che ha detto? Ha detto. Ha capito? No, io non ho capito, cioè, ha capito cosa? Sì, ho capito che si mette a ridere, perché purtroppo qui in Italia tutto è a barzelletta, soprattutto se. Vabbè, Carmine, punturina subito, dai, sì, forza. Sì, punturina. Va bene, sì, la saluto. Buonasera. Punturina, Alberto da Roma, buonasera. Buonasera caro Cruciani, intanto due cose veloci. Allora, la prima è che voi siete impagabili e quindi qualsiasi cifra vi diano è sempre poco. E addirittura, adesso Alberto. Sì. Primo. Bravo. Secondo, il comunismo è stato capace di produrre Chernobyl, no? Tanto sì, per dire, vabbè, adesso non è che Chernobyl è prodotto dal comunismo, certo. Gli incidenti nucleari sono gli incidenti nucleari, come lei sa, sono avvenuti anche in altri luoghi. Diciamo che anche il Giappone, che non è una dittatura comunista, Cruciani, il comunismo ha prodotto una Chernobyl in cui sono stati fatti degli errori causati dalla mancanza di controlli e dall'esecuzione. Ma sì, la comunicazione dopo, eccetera, eccetera. Beh, sì. Perché in Giappone? Ecco, quindi non Parenzo, è un discorso lungo. Genio della lampada, il Giappone per qualche settimana, il governo giapponese, per non terrorizzare la popolazione, e non è una dittatura comunista, non aveva comunicato esattamente le radiazioni, il tipo di pericolo. Sveglia, sveglia, sveglia, tre volte te lo dico, sveglia, sveglia, sveglia. Il discorso è lungo, il discorso vabbè, Alberto, lungo. Andiamo al sodo, adesso non possiamo rimanere lì al comunismo, su. Andiamo al sodo, non sono d'accordo. Adesso non possiamo rimanere appesi a questa stronzata che ha detto Ferrero, diciamola tutta. Ferrero ha detto una stronzata, cioè, punto e basta. Esatto. Io lo dico con tutto rispetto, ha detto una stronzata. Allora, le stavo dicendo, non sono d'accordo invece sul discorso delle ferie. Lei è troppo temerario certe volte. No, ma sto, ma io faccio un discorso personale, fosse per me non andrei mai in ferie, lavorerei sempre. Okay. Sono malato, è una malattia la mia, sono malato. Mi racconto un aneddoto allora. Mi racconti un aneddoto, avanti, veloce però. Allora, una cosa velocissima, sì. Allora, io lavoravo in una grande azienda e c'era un carissimo collega, il quale era come lei, non voleva farsi le ferie. Sì. Dopo, diciamo, sei mesi, ci ha lasciato le penne. Vabbè, ho capito, adesso scusi, abbia pazienza, adesso lei può capire cosa sto facendo in questo momento. Cruciani, cioè, no? Cruciani. Scusi, Alberto. Ci faccio le ferie. Me le farò, sì, me le farò. No, per carità, me le farò, perché poi sono anche costretto. Sono costretto. Alberto, grazie. A Matteo da Milano, buonasera. Matteo? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Che sta facendo? Volevo fare, ero in viva voce. Volevo fare una battuta a quei centristi bigotti che dicono che il matrimonio omosessuale è contro natura. Io gli direi che allora, visto che non procreano, anche i preti sono contro natura e le suore, perché alla fine il discorso sembra sempre quello, sembra sempre che alla fine dicano se fossero tutti froci il mondo non andrebbe avanti. E allora io gli dico se fossero tutti preti, gay, se fossero tutti gay ci sarebbe la bomba atomica. Questo dice un signore come Carlo Casini. Lo voglio risentire, sì, lo voglio risentire. Fatemi risentire Carlo Casini. Carlo Casini con la bomba atomica, uno dei must di questa stagione della Zanzara che va a concludersi. Uno dei must di questa stagione che va a concludersi. Se davvero in questo momento tutti nel mondo diventassero omosessuali, tutti quanti, le donne si uniscono alle donne, gli uomini agli uomini, credo che ci sarebbe un effetto simile alla bomba atomica. Cioè, questa sarebbe l'ultima delle generazioni. Basta fare una puntura e tutto passerà. Mamma, ma il culetto è mio, è qui e peggio. No, no, no, non ci sto. Ma il culetto è mio. partiamo con le punturine. Le punturine di questa stagione sono sicuramente le persone che sono venute qui a parlarci di omosessuali, questa grande stagione della Zanzara che va a concludersi e chissà se riprenderà, chissà se ricomincerà. Sì, ci sarà qualche spruzzatina d'agosto di Zanzara, però chissà. L'omofobia, avete sentito Carlo Casini, Cimadoro, il cognato di Di Pietro, come dimenticare, caro Parenzo? Come dimenticare, punturina subito. Sì, sembra, mi sembra più indicato per una personcina diversa. Il povero onorevole Tremaglio li chiamava culattoni, però lui ma lei ha utilizzato la stessa parola, i culattoni. Fuori onda, perché io un po' più orgogliosamente ritengo di essere normale, ecco questo. Una bicicletta. Romano La Russa, i gay sono malati. Sei caduto dal sellino e hai il naso tutto blu. Siamo andati. Per quanto mi riguarda, nella maggior parte dei casi sono malati ed è una malattia da cui si può uscire e possono essere curati. Buon anno, mi fanno schifo i gay. Gente che comunque vuole esternare in maniera troppo plateale le cose, la sessualità e modi di essere, a me non piacciono. Sì, è vero, mi fanno schifo. Io quando vedo gay pride che sfilano come se fossero al carnevale di Rio, non autorizzerei mai una cosa del genere. Calearo, i gay che si baciano mi fanno schifo. Se lei vede due uomini che si danno un bacio per strada, mi le giro fa da un'altra parte e le fa schifo. Fa schifo. No, però aspetti, se si danno un bacio a labbra chiuse, però senza la lingua. Ma sono fatti allora, fa schifo. Porteria. Ma non è che sono anche un po' malati, no, da curare? Assolutamente. No. Io credo che sono gusti diversi, però gusti. Avendo i miei normali, mi tengo i miei dopo. Quelli sono normali, perché sono loro. Scilipoti, il rapporto anale contro natura. Perché dovrebbe essere contro natura, però solamente quello tra uomini e non quello tra uomo e donna? Io non ce l'ho con gli omosessuali, io non ce l'ho con nessuno. Dico che il rapporto anale sicuramente è contro natura. Due uomini che stanno assieme hanno dei rapporti anali, sicuramente a mio giudizio è un rapporto non normale. E il mitico Polledri, come dimenticare, lo psichiatra o psicologo, non mi ricordo, della Lega, psichiatra, caro Parenzo. Psichiatra, eh? I gay, infelici, ma irreversibile. L'omosessualità non è una malattia, può essere una condizione di infelicità. Secondo lei è una condizione di infelicità? Può essere una condizione di infelicità, in molti casi. Può essere una condizione di infelicità che può anche essere reversibile. E poi il mitico professore Carlo Taormina. Se gli piace, che devo fare? Purtroppo io la penso diversamente. No, d'accordo, ma mi rispetto, per carità. Però quando stanno divisi, quando stanno in compagnia. Ma che succede? Se si avvicinano a lei, a me fanno schifo. Abbiamo già un ospite pronto, un mitico senatore della Lega che è rimasto fedelissimo a Umberto Bossi e per questo va rispettato, però ci sono un paio di telefonate, senatore aspetti lì che la presentiamo bene, Pierluigi dalla provincia di Piacenza, buonasera. Buonasera Crusciani, buonasera. Dica, a voi. Dica. Guardi, mi faceva piacere ritornare sull'intervista che avete fatto, la splendida intervista che avete fatto a Briatore. Signor Briatore, sì, sì, dica. Esatto, perché stasera state parlando di comunismo, faccio un po' un beh, adesso di comunismo, ne ha parlato Ferrero, non vorrei restare sul tema del comunismo. Bravo. No, assolutamente, mi è bastato quello che ha detto ed è sufficiente, giusto? No, mi piaceva ritornare perché l'avevo sempre giudicato superficialmente il signor Briatore. E mi ha toccato dei concetti interessanti, sì. Siamo un paese vecchio, se si parla di Berlusconi che vuole tornare in politica o degli altri siamo un paese vecchio, anche un paese non è per ricchi, perché i ricchi vengono sempre visti dal punto di vista invidiati o semplicemente abbinati al malaffare. E soprattutto mi ha sdoganato Renzi, sindaco della mia città, che penso in questo panorama sia perlomeno uno. Vabbè, allora? E siccome ho aderito al manifesto di Oscar Giannino, mi sembra abbia tirato fuori dei concetti nuovi. Vi chiamavo per dire che mi fa molto piacere quando trovate delle persone che mi tirano fuori concetti nuovi, cioè vale a dire che guardano al domani e non guardano sempre una lettura alla preistoria e a tutto quello che c'è sempre da vent'anni a questa parte. Vabbè, grazie. L'ho trovata fresca. Ecco, grazie, diciamo, grazie. Pasquale dalla Spezia. Pasquale. Pasquale, vada. Buonasera. Dica. No, non dalla Spezia, da Indossago, provincia di Lecco. Vabbè, guardi, guarda, Pasquale, guarda, che cosa le devo dire? Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, Parenzo. Come faccio agosto senza le vostre punture? Come faccio? Che dobbiamo fare? Come faccio a sopravvivere? Poi mi date anche l'incubo di non si sa settembre, no? La zanzara, voglio farmi pungere dalla zanzara, voglio la battaglia, ogni sera la battaglia voglio. La battaglia, battaglia, ascoltatori, voglio ascoltatori. Sì, Parenzo, voglio la battaglia. Poi un'altra cosa, dottor Cruciani, sì. Una cosa sola. Non capisco la gente che chiama. Sì. Ed è così ignorante a non capire il fatto che i mostri che voi ci portate, sì, i mostri di poterli ascoltare, ascoltare il loro pensiero, non sui giornali, dicono una cosa e poi smentiscono, dalla loro viva voce, è bellissimo. Gli italiani dovrebbero chiamare e ringraziarli invece di attaccarli. No, no, per carità, per carità, finirebbe tutto, finirebbe tutto. Io voglio il sangue. Finirebbe tutto, anch'io voglio il sangue. Sangue e merda. Beh, allora, questo è buono, questo è buono. Ripeta un po', io voglio. Per quanto riguarda la merda, non si preoccupa. No. Ripeta un po', caro Pasquale, ripeta a voce alta. Io voglio sangue e merda. Pasquale da Imbassago, la sera, vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. È chiaro? È chiarissimo, la ringrazio, caro Pasquale. No, l'ultima cosa, l'ultima cosa, che buono. Un mio amico infermiere mi ha detto basta. Cosa? Non ci sono più ambulanze, non ci sono più. Non c'è più manovalanza, sono in ferie tutti, per favore basta con l'ambulanza. No, è che basta con l'ambulanza, qui magari ce ne abbiamo bisogno pure stasera. C'è un calo, ci sono i tagli dei monti, c'è un ho calo. Capito, però qui noi abbiamo una task force tutta abbiamo nostra. Una riserva della zanzara, guardi. Va bene, riportato, ambasciatore non porta pena. Grazie, a settembre aspetto le vostre addio. Sangue e merda, sangue e merda. Sago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Chiarissimo. L'onorevole Giacomo Chiappoli, che è deputato e non senatore. Buonasera. Salve. Come sta? Grande Chiappoli. Stasera è una serata un po' particolare, ma di schiena la Madonna. No. Oh, che è successo? Che ne so, un colpo d'aria. Dicono un colpo d'aria. Non colpo so. D'aria? Anche quando uno ha le emorroidi prova con. Ma perché dovrebbe avere le emorroidi? Scusami, abbi pazienza. Perché mi è capitato una volta. Non le ha, ha detto che non le ha. Comunque. No, perché alle volte può capitare, ma lo dico con rispetto, ma perché non ho capito. Può capitare che se hai le emorroidi ti viene un mal di schiena, pazzesco. Faccio intanto gli auguri al senato, all'onorevole per le emorroidi. Ma non ce le ha, tu abbi pazienza, perché gli vuoi dare le emorroidi? Perché non sono cose che uno ovviamente può dire così tranquillamente alla radio. Scusa, ma abbi pazienza, ma non è vero. Se uno le ha, scusi. No, ma non è grave, anche se uno le ha non è grave. Cioè. Non è grave, infatti è una roba per cui uno ci soffre e gli faccio gli auguri. Vabbè, ma non è vero, non c'è. Una volta che faccio gli auguri a un nostro ospite che ha l'emorroidi. Ma chi dice che ha l'emorroidi e non è vero, scusami. È un deputato della Repubblica. E cosa c'è? Sempre se riconosce la Repubblica. Ma perché i deputati non possono avere emorroidi, io non ho capito. La riconosce la Repubblica, onorevole Chiappoli? Ho giurato, quindi qualche cosa ci sarà. Voglio sperare, voglio sperare. La riconosco quella federale, mi farebbe più piacere, o confederata, però abbiamo questo e ci teniamo questo. Sì, certo. La bandiera, come tanto per chiarire alcune cose subito, rapidissimamente. La bandiera è importante. Io ho in casa mia una bandiera italiana che avevo anche portato quando Violante era presidente della Camera, dove nel verde c'è il sole delle Alpi, nel bianco c'è un punto interrogativo e nel rosso un punto interrogativo. La speranza è che domani quei due punti interrogativi spariscano e si trovi quella grande Repubblica federale che ho sempre sognato mentre facevo il giro in questa dramma della politica italiana da 20 anni. Scusi, com'è la pronuncia esatta del suo cognome? Chiappoli o Chiappoli? Chiappoli, l'ha Chiappoli. Pronunciato bene, è uno dei pochi che lo fa, perché di solito è Chiappoli. Chiappoli. Vabbè. Chiappoli, insomma, Chiappoli. Allora io dico una cosa. Però, ma è bossiano di ferro lui. Ma è molto bossiano, sì, molto bossiano. Ancora? Sì, perché non si può essere bossiani. Uno segue una persona quando questo un bel giorno ti dice ma guarda che non serve molto, basta guardarsi dentro, il coraggio per fare certe cose c'è, basta solo andarlo a cercare. Di fronte a questi tipi di discorsi non ce ne sono altri. Poi Poi, come è successo con mio padre, quando si cerca di accantonare o si esce dall'azienda, sì, è evidente che a papà, fino a 85 anni, ho chiesto ancora consigli. Qualche cosa che dovrebbe fare qualche donato non vuol più fare. Mentre... E chi è che non vuole chiedere più consigli a Bossi? Maroni? Maroni? Ma non lo so io. Ma sì, è Maroni, diciamola tutta, Chiappari, ma lei ormai non si candida più, che ovvio, gliene frega. No, mi tiro indietro. Come si tira indietro? Non mi tiro indietro. Maroni non vuole più consigliare. Ormai l'ha scaricato, lo considero un ferro vecchio. No? Cioè, vorrebbe farlo sparire, non lo so io, ma non credo. Si vogliono bene, lo dicono sempre a tutti gli incontri. Queste sono le cose che si dicono. Anche Caino e Abele si volevano bene. Sì, è bravo, giusto. Anche Caino e Abele. Diciamola tutta. Bossi non ci vuole stare al fatto che Maroni è diventato... Per lei, per esempio, onorevole Chiappoli, chi è il capo? Beh, certo, Bossi. Vabbè, se... Detta così, è evidente che la risposta è una unica. Se lei mi chiedesse chi è il segretario, direi Maroni. Quello perché c'è chi scritto il capo, è evidente che è solo Umberto. Cioè, se Bossi dice una cosa e Maroni un'altra, lei con chi sta? Ho sempre anche contestato Umberto se c'era il caso di farlo. Io non mi sono mai appiattito, io non ho mai sempre detto sì perché qualcheduno me lo diceva. Quindi se Umberto dice una cosa che non quadra o che non mi quadra, gli chiedo perché. Se... dice una cosa che non mi quadra il mio segretario, perché comunque parlo del mio segretario, gli dico anche a lui quello che penso. Ecco. Senta Chiappoli, ma è vero che Bossi per la prima volta passerà l'estate in Liguria e non in montagna? Beh, questa è una grande notizia per la Liguria. Lei è sindaco anche di Diano Marina. A proposito, com'è che continua ad avere questo doppio incarico? Quanti abitanti ha Diano Marina? È doppio incarico perché una volta era permesso, ma dovete sapere che... Quanti abitanti ha Diano Marina, scusi? 6.300. E 57.000 d'estate. Appunto, ma insomma, d'estate aveva molte cose da fare, perché continua a avere questo doppio incarico? Difatti, lei sta dicendo una cosa molto importante, perché in campagna elettorale, quando ancora non c'erano, secondo il modo di pensare, le divisioni nella Lega, io dissi, perché non ritengo che il doppio incarico non ha nessun significato, dissi che a fine di mandato non mi sarei più ricandidato. E invece? Adesso faccio, al prossimo, lei dice al prossimo. Faccio, certo. Senta, perché? Ma Diano Marina non è gay friendly. Come? Non è gay friendly Diano Marina. Amici dei, amica dei, cioè una città amica degli omosessuali. Perché non promuove il turismo omosessuale? Io non lo so, non certamente mi metterò a promuoverlo io, però perché se no? Se qualche gay a Diano Marina faccia quello che deve fare, io la cosa non mi interessa. Beh, ci saranno sicuramente, io credo di sì, insomma. Un bel bacio collettivo in piazza, per esempio. A me, guardi, io ho una bambina di 9 anni, mi dispiacerebbe dovesse vedere una cosa del genere, perché poi gli dovrei spiegare perché. Però se quindi... Perché le dispiacerebbe? Perché esempio, le dispiacerebbe far vedere? Ho degli amici gay, ad esempio, che sono persone meravigliose, che le loro ostentazioni le fanno a casa, le fanno in privato. Credo che sia più importante, non lo so. Cioè, secondo lei due gay si possono baciare, sì, ma solo a casa, perché sennò fanno scandalo. No, bacini se ne possono dare quando vogliono. Certe volte si ostentano cose un po' più gravi di un bacino. Lei dice? Ma no, ma non in piazza, Cioè, a sua figlia un bacio... Lo chieda magari a Sircano o a Marrazzo. Poi vedrà che succede? Sircano e Marrazzo. Che c'entra Sircano e Marrazzo? Scusi. Non erano lì, non avevano quei contatti. No, ma che c'entra? Sircano non c'entra niente. Li avevano avuti per strada, non li avevano mica avuti in casa. Ma no, Sircano non è successo nulla. Marrazzo è stato coinvolto in altre cose, ma certamente non all'aria aperta, come dire, no? Ha letto Chiappoli. Ha letto male, secondo come me. Come ha letto male? Benissimo, ha detto tutto. Ma no, ha letto male. Vede che là in Padania arrivano i giornali di Padania. Va bene, ho letto male. Però scusi, Chiappoli, adesso io le dico una cosa. Se ci fosse sua figlia che vede in piazza due uomini che si slinguano... Mi dispiace. E perché? Ma mi dispiace perché gli devo spiegare. Che si amano, che si vogliono bene. Ma perché vede... Perché non si possono volere bene. Io sono uno di quelli che ha sostenuto che due uomini o due donne, eccetera, si possono anche voler bene. Certo. Ma ad esempio non possono adottare figli. Vabbè, questo è un altro discorso. Ma ognuno se la può vedere come vuole o no. Certo. Cioè, non è mica quello. Io, da quando ricordo, mi è sempre stato detto che per avere una famiglia bisogna... Ma questo non c'è dubbio. Ma che c'entra il bacio, però? Allora, che cosa c'entra? No, il bacio. Perché sua figlia le direbbe di voltarsi? Cosa le direbbe di fronte a un bacio? No, perché... purtroppo se lo fanno in piazza, mia figlia non è che non ci vede, ci vede, ma mi chiederebbe cosa è sta faccenda. E si vogliono bene, si danno un bacio. E io due si danno un bacio. Se glielo danno, come dice lei, con la lingua, magari gli dico: ma scusa, lo puoi fare da un'altra parte, che magari non sta bene. Ma perché non fa una bella cosa, una bella ordinanza? Le ordinanze. Non bisogna. Io nella mia vita non ho mai cercato di sottolineare le differenze. Se ci sono, ci sono, punto, basta. Però fare delle ordinanze contro chi ma si vuole so. Bene, come dice lei, appunto, la cosa non mi interessa. Appunto. Però se loro avessero rispetto come io ho di loro, magari non si slinguerebbero, come ha detto lei, in piazza. Tu hai vietato baciarsi in luogo pubblico? No, questo. No. Senta, ma una bella statua. Come ha detto quel radioascoltatore, vogliamo fare un po' come cazzo vuole, no? Esattamente, sì. Bravo. Allora, 800 24 00 24, qualche ascoltatore resta con noi. Giacomo Chiappoli, l'ultimo bossiano. No, l'ultimo no, ci sono diversi di bossiani, adesso esagero naturalmente, come gli ultimi giapponesi. Ma una bella statua di Bossi a Diano Marino, non la mettiamo? Di sale. No. Perché no? Ma non è mica ancora morto. No, ma chi lo vuole morto? Perché allora? Anzi, guardi, senta, anzi. Si mettono dei morti, non dei vivi. Senta, senta le ultime performance, per esempio, no? Senta qui, Bossi. Che paese di merda. No, mi sembra ancora in piena forma lì, Che paese di merda. Diretta, onorevole. Fra poco, anzi, fra poco cerchiamo di collegarci. Le farebbe piacere salutare Bossi? Ogni tanto lo sente? Sarebbe male, l'ho sentito ancora la settimana scorsa. Ma quando la chiama Bossi? Come vi sentite? Col telefono? Lei lo chiama direttamente? L'ho visto. Ah, per telefono mai? Per telefono, ti chiama qualsiasi ora, insomma, qui non è che hai da fare con uno semplice. Ci proviamo anche noi, dopo, fra qualche istante ci proviamo anche noi. Magari troviamo il numero. No, perché abbiamo un numero, non sappiamo mai se è quello giusto. Alle volte non risponde quasi mai. Quasi mai, però ha visto mai Giuseppe Dalì. Cosa, Chiappoli. Sì, Chiappoli. Lei no. deve, nella sua onorevole Chiappoli della Lega, lei deve identificare nel suo comune un bel sito e lì fare una statua della famiglia Bossi in un bel sito del comune. Che stupidaggine. Un bel sito. Peraltro Ligure, signor Belsito. Signor Belsito. Era bella questa. Comunque, però, è confermato che viene al mare e non in montagna o no? Beh, credo di sì, no. Ma beh, è una grande notizia. O vado in montagna, è sempre venuto al mare, è venuto anche l'anno scorso, è venuto anche due anni fa. Però non va in montagna e va solo al mare, questa è la novità, è questa, no? Non c'è novità, no, non va magari in montagna. E appunto, Beh, no, politicamente il suo appuntamento a Ponte di Legno, luogo dove... c'è qualche problema a Ponte di Legno. C'è il signor Caparini, Caparini. Non lo so, io sono amici, non capisco, non lo so. C'è grande Caparini. A lei piace questa Lega 2.0? No. Come, il momento. La Lega 2.0 è la Lega dove ci sono io e ci siamo tutti, quindi va bene. Però mi dica la verità, Maroni ha distrutto tutto. Se poi mi dice che cosa ne penso di alcune affermazioni, certe cose non le vedo. Per esempio? Le vedo altre, insomma. Che cos'è che non vede? No, ad esempio quando mi è stato detto non pagare l'IMU. Questo mica l'ha detto Maroni, però. Se l'IMU è una tassa statale, come faccio io a dire alla gente di non pagarla? Non la pagano, saranno. Oppure sforo al patto di stabilità. Per un sindaco è una minchiata. Poi, insomma, se lo faranno tutti, vediamo. Io non credo. Insomma. Oppure che il modello migliore per il prossimo futuro sarà quello Verona, dove c'è la lista civica che ha il 40%. Beh, quello è buono, no? E la lista ma come è buono? Beh, quello è stato eletto con un sacco di voti, signor. Buttiamo tutto nel cesso, va bene. Ma no, che buttiamo nel cesso? Ma Tosi è il futuro della Lega. Sì. No? Io lo conosco molto bene perché quando ero il presidente della Guardia Nazionale Padana, lui era un iscritto. E allora? Di cos'era presidente? Della Guardia Nazionale Padana. Che cos'è la Guardia Nazionale Padana? Era una cosa seria. Adesso un po' meno. Adesso siamo lì. Guardia Nazionale Padana è una cosa seria, adesso Chiappoli, su. Ma cos'è la Guardia? La Guardia Nazionale Padana è una specie di esercito parallelo. Siamo stati in Abruzzo, siamo stati in Piemonte, siamo stati il nostro dovere a spalare acqua. Ma sì, va bene. Ma si può, ma va bene, bravissimo. Era una cosa seria, molto seria, voi chiamatela come volete. No, ma scusi, perché Tosi dovrebbe essere, non è una persona seria, scusi. Perché l'ho conosciuto in quel momento. momento lì io le dico che è una persona seria, però non si deve partire da quel modello lì perché è sbagliato, punto. È sbagliato, solo la Lega ci vuole. No. No. La Lega è il partito trainante, ah, e la lista importante, quella con il 40%, sì. Poi ci sono le altre liste civiche che seguono, vabbè, assieme, non il contrario, ecco. Il contrario è un problema. Chiappori, la ringrazio, buona serata. Salve. Stia bene lì. Giuseppe da Livorno, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica, senti, dica. Sì. Sì, senta, sì. Fra sangue, merda ed emorroidi non stiamo finendo bene. No, come non stiamo finendo bene? Stiamo finendo benissimo. Ascolti, ma veramente non faccia scherzi, ritorni, perché sennò qua è un casino, perché qua sentono tutti quanti sentono Cruciani, ma tutti. E poi, non so se ha notato, l'avrà notato meglio di me, ogni mattina leggo il giornale e sì, c'è sempre qualche notizia che viene fuori da uno scoop dalla zanzara. Quindi lei comincia ad avere una responsabilità seria, ma anche perché la pubblicità aumenta sempre di più. Ma quale pubblicità? La sua pubblicità durante la trasmissione, quindi vuol dire che gli aumenti li ascoltano di sicuro. Aumentano, gli ascolti. O sbaglio? È una brava persona questo dottore. Vabbè, allora Giuseppe? Allora, telefonavo per questo. Lei, visto che avete una responsabilità, io sono rimasto un po' male che avete trattato poco male Feltri, perché quando lui ha detto che era certo al 100%, ma ce l'ha spiegato oggi, ce l'ha spiegato, gliel'ha detto Berlusconi, si è fidato di Berlusconi, errore tremendo, si è fidato di Berlusconi. Si è fidato di Berlusconi, già che gli ha detto che era la fonte, gli poteva chiedere che gli aveva promesso Berlusconi, no? Per avere quella certezza. E poi, quando si è così certi, e poi le cose devono avverarsi, altrimenti vuol dire che lui, durante tutta la sua carriera, chissà quante volte l'ha fatto questo errore di dare una cosa per certa. Vabbè, che vogliamo fare? Però si dimetterà di sicuro. Questa è la nuova promessa che ha fatto Feltri, eh. Intanto si dimetterà di sicuro Laminetti. Però si dimetterà di sicuro. Ha capito, Giuseppe? Ho capito. Senta, poi per ultimo le volevo dire una cosa, che c'è una piccola contraddizione. So che lei le dà molto fastidio quando le danno del tu, no? No, vabbè. Però lei ci dà del tu quasi tutte le sere, perché lei ci saluta dicendo ciao alla fine della trasmissione. Vabbè, adesso è come pignolo, è pignolissimo. E lei dice ciao, quindi ci dà del tu. Quindi, diciamo, ci potremmo anche arrogare il diritto di darle del tu anche noi. Sì, con questo la saluto e auguro buone vacanze, però di cuore, per davvero. Ciao. A lei e a quel cialtrone di Parenzo. Matteo da Palermo, buonasera. Grazie. Matteo, dica. Buonasera, signor Cruciani. Mi collego a due degli argomenti che ha trattato stasera, che in effetti lei ha trattato spesso nel corso delle trasmissioni che io sono solito seguire, ovvero l'aspetto dei gay e l'aspetto anche del comunismo. Secondo me, al contrario di quello che ha detto il telespettatore precedente, lei, forse io lo dico da elettore di centrosinistra, ha trattato troppo bene l'esponente della fondazione. Dico, per fortuna di tutti, diciamo, Ferrero non può più provare cosa significa vivere probabilmente in quei regimi, perché magari la gente del popolino poteva anche avere la percezione di vivere meglio, perché i piccoli bisogni erano appagati, magari quello che poteva essere il cibo, così come tale, o sicuramente l'istruzione o l'aspetto sanitario, ma mancava la libertà senza dubbio, e non capisco come proprio loro, che sono dei paladini. Scusi Matteo, però perché dobbiamo tornare su questo argomento? Perché, ma è talmente chiaro. Io voglio risentire Ferrero, io le faccio risentire solo Ferrero, sì, perché qui c'è veramente la punturina subito. Molta gente continua a ricordarsi che tutto sommato quando i comunisti erano un po' più forti non si stava così male. Ha capito? No, ma io ho detto che lei l'ha trattato troppo bene. Forse beh, come troppo bene? Ci siamo messi lì a discutere, a fare, che dobbiamo fare di più? Mica lo possiamo decapitare, abbia pazienza. Non ho potuto seguire tutta la trasmissione e di questo me ne scuso. Ma vabbè. Il parallelismo che volevo fare era proprio che una certa sinistra, che in questo giustamente dico, è spesso, tra virgolette, paladina dei giusti diritti che devono avere gli omosessuali, avessero visto cosa significava per un omosessuale poter vivere, se poteva esprimere la propria libertà in Unione Sovietica. Ho capito subito, nei paesi comunisti. Abbiamo capito, Matteo, devo dare la linea a Padova. Ivano, buonasera. Ah, vicino. Buonasera, dottore. Volevo soltanto chiederle una cosa. Ma perché voi siete così pro-gay? Lei è in viva voce. Non posso fare altro perché sono in macchina. Lo so, ho capito, ma se tutti fanno così alla fine, Ivano. Mi sente male, provo a spegnere l'aria condizionata. No, che c'entra l'aria condizionata, certo. Scusa. Perché dà fastidio sul viva voce. Dica. Si sente meglio adesso? No, si sente uguale. Lei deve togliere viva voce. Prenda sto telefono, faccia qualcosa. Comunque provi, avanti, su, veloce allora. No, volevo sapere solo perché voi siete così troppo pro-gay. Io, ma non siamo pro gay né contro gay, siamo a favore del matrimonio tra omosessuali, punto e basta. Non me ne frega niente pro gay o contro i gay. Avete parlato anche della slinguazzata in piazza. Beh, ma era una provocazione quella lì, Ivano. Su, a me comunque, a me, devo dire la verità, se si baciano, scusi, se due eterosessuali si baciano in maniera appassionata, non mi fa nessun effetto. Non mi fa nessun effetto anche se si baciano due donne o due uomini, non me ne frega niente. Per me è esattamente la stessa cosa. Se ci fosse di fronte mia figlia, che guarda e mi dice perché si baciano due uomini, io le risponderei perché si vogliono bene, punto e basta. E se lei mi domanda ancora, e se lei, mia figlia, mi domanda ancora, ma scusa papà, ma si possono volere bene due uomini e due donne? Dico sì, succede anche questo, che si possa, no, succede anche questo, mica lo dico come una cosa clamorosa, succede anche che due uomini e due donne si possono volere bene, dunque di conseguenza si baciano. Non è che poi mi viene il terrore che mi diventi omosessuale, guardi, non ce l'ho, no, questo, no, terrore, no, ma su questo non c'è, io non discuto, anzi non ho nulla da dire. Mi sembra soltanto che alcune volte, quando voi molto spesso affrontate questo problema, siete abbastanza pro, e dico benissimo, per l'amor del cielo, rispettabilissima la vostra considerazione, però voglio dire, l'ostentazione in piazza forse non è proprio... Ma l'ostentazione dipende, ma che vuol dire l'ostentazione? Scusi, ma perché se si baciano due eterosessuali è normale, se si baciano due gay è ostentazione? Non lo capisco, l'ostentazione ci può essere da una parte e dall'altra, da parte di due coppie eterosessuali, da parte di coppie omosessuali, non capisco l'ostentazione. Perché l'ostentazione? Cioè, non... Poi uno dice l'ostentazione del gay pride, te credo, quello è il gay pride, è una sfilata, è certo che c'è ostentazione, lo dice la parola stessa, gay pride, sfilata del gay Pride. Di solito nelle sfilate non è che c'è uno sfila, no, come nella marcia dei 40, famosa marcia dei 40.000, tutti composti, eccetera, eccetera. No, gay pride c'è, piuttosto colorito, insomma, no. Rispetto la sua. Comunque, guardi, io stasera non volevo parlare di questi argomenti, è lei che ci introduce. Valentina da Roma. Valentina da Roma, buonasera. Salve, buonasera. Dica, buonasera, cara signora Valentina, dica. Sì, io ero venuta per dire la mia su questa storia dei gay. Io sento sempre Radio 24, vi apprezzo, siete allora... un duo perfetto. E allora il problema è che basta con le situazioni dei gay, se si parla di lavoro, si parla dei veri problemi. Ma io di lavoro non parlo, ma se vuole ne parla lei di lavoro, io non parlo di lavoro. Ma come non parla di lavoro? Non parlo di lavoro, se vuole manda... C'è gente della mia età, di 34 anni, che ha fatto e non ha lavoro. E vabbè, allora perché devo parlare di lavoro? Mi viene una tristezza. Ma mi viene una tristezza infinita a me. Mi viene una tristezza infinita. Basta fare una puntura e tutto passerà. Sei ancora a casa, Simo? Punturina, punturina. A Gasparri, a Gasparri, a Gasparri. Sentiamolo, Casini, compagno di strada di chi è contro la famiglia. Bersani si allea con Vendola e quindi la sinistra è sempre più sinistra. Casini vuol fare il compagno di strada di chi è contro la famiglia, di chi è contro la libertà dell'impresa. Il Popolo della Libertà propone scelte di chiarezza. Lo scontro epico tra Pippo Baudo e Maurizio Gasparri. Partiamo dall'ultima cosa, Baudo, Gasparri mi manderebbe al confino. Ma Maurizio è veramente un mio nemico storico. Ma io non ho avuto mai un alterco motivato ideologicamente, certo ideologicamente non la penso assolutamente come lui, mai, però non dare questa sia una ragione per attaccarmi ogni più sospinto. C'era con me, Baudo deve andare a casa, Baudo deve andare a casa, e meno male che ancora non esiste il confino, perché è stato eliminato, insomma lei c'era il Ventotene oppure Roma, o Ustica, gli piacerebbe tanto. Basta fare una puntura e tutto passerà. Eh beh, avete sentito, oggi ha detto Baudo, Gasparri ha detto Baudo è perfetto per Rai Teche. Guardi, si può invecchiare bene ed invecchiare male. Pippo Baudo a 75 anni vorrebbe andare ancora in video. Tutti a un certo punto ci dovremo ritirare. Basta fare una puntura Beh, però la vera notizia, al di là del bronzo, del bronzo degli azzurri della sciabola, è quella che viene dal campione del nuoto Lochte americano, Ryan Lochte, il quale ha detto, senti qua. Della rissa? No. Ha detto che di aver fatto pipì nella piscina olimpica. Ha ammesso di aver fatto pipì nella piscina dei giochi olimpici. Ha detto ai media americani di essersi liberato. Non durante le gare all'Aquatic Center, ma certo durante i riscaldamenti. Ha spiegato che c'è qualcosa nel cloro dell'acqua che ti fa andare automaticamente. Beh, emozione. Uno può essere squalificato per questo, no? No, perché chissà dove vanno in vacanze i politici, che dici? Questo è interessante. Fra poco carrellata. Lorenzo da Pistoia. Perché proviamo allora a scoprirlo un po' telefonando? Fra poco. Lorenzo da Pistoia. Ad Minchiam chiamiamo. Pronto? Sì, dica. Buonasera, salve, senta, io volevo... Ma tu hai mai fatto la pipì nella piscina? Di la verità. Io? Sì, ma tutti la fanno. Anche io. Lei l'ha fatta, Lorenzo, lei l'ha fatta la pipì in piscina? Io continuamente. Certo. Ma come continuamente? Ma fai schifo, fai. Ma fai schifo. Ma no, perché se l'acqua è fredda, almeno si scalda un po'. No, ma fai schifo, scusa, tu stai ammettendo di fare continuamente la pipì in piscina. Ma non è fermatevi vero. Tutti. Ma sicuramente la fanno anche i suoi figli. Cioè, ma i figli, i bambini, va bene, si può capire, ma scusa. Mi è capitato... Forse... Hai detto che la fai di continuo. No, beh, lì stavo scherzando. Ti posso raccontare questo che è vero, però qualche anno fa, sì. A un certo punto, una volta mi è stato molto molto imbarazzante. Mi è capitato, sì. E però era una piscina maledetta perché si era formato poi l'acqua aveva cambiato colore. Questi bastardi. Ma che c'entra il colore? Perché poi si è scoperto, dice. È bravissimo, bravissimo. Io ho provato a dare immediatamente la colpa a un signore di 70 anni, poverino, che era lì vicino facendo così col dito. Sì. Ma è venuto fuori un putiferio poi. Signor Lorenzo, invece lei non ho capito. Anni fa però. Cosa? La pipì in piscina l'ha fatto o no, come il campione americano di nuoto Lochte? La grande notizia di oggi dalle Olimpiadi è questa, diciamocela tutta. A me sembra di no, non mi ricordo. Beh, da bambino sicuramente, da adulto no, mi faceva anche un po' schifo, come dire, no? Ma è capitato qualche anno fa, ma non sono problemi. Lorenzo, allora che diceva? Che c'ho 25 anni, quindi può essere successo anche 7-8 anni fa, cose di questo genere. Vabbè, comunque... Ma lei ha mai fatto l'amore in piscina, ad esempio? Ma che c'entra l'amore in piscina adesso? Ho fatto anche quello. A 25 anni già ha fatto l'amore in piscina? Ho fatto tutto. Mamma mia. Comunque, vabbè, ci dica. Comunque, io volevo... Ora però siamo entrati in un argomento troppo frivolo per parlare di cose serie. No, ma dica, alto e basso, come al solito. Va bene. Io volevo intervenire per le telefonate di prima, sì. Anticomunismo, comunismo, allora... hanno veramente rotto le scatole, perché poi con la questione jugoslava... Guardi, la questione jugoslava non la posso sentire. Scusi, quello che ha detto questa sera il signor Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, è semplicemente una stronzata. Punto e basta. Cioè, quando c'è il comunismo si sta... Ma Ferrero è anche un noto rappresentante di se stesso. Stesso. Rifondazione Comunista più di Liberto, se stesso proprio no. Pare che siano intorno comunque al 4, 5, 6%. Non è mica detto che rappresenta se stesso. Grazie, Lorenzo. Collegamento con la Sardegna, se non sbaglio. In Sardegna? Non lo so, chissà. Sì. Valeria Marini, buonasera. Ciao a tutti, magari in Sardegna. E dove sta? Ciao Marini. Sono appena tornata da fuori Italia per lavoro e ma che sono meraviglia. Qui. Senta, lei ha mai fatto pipì in piscina? Mamma scusi, mia, se ma che cos'è di? Cioè, in un'estate dove ci sono tante cose importanti di cui parlare, le Olimpiadi. Appunto, ma guardi che alle Olimpiadi è venuta fuori questa cosa. Il campione americano super. È proprio la zanzara di nome di fatto. No, scusi. Tremendi. No, non si fanno. No, signora Marini, scusa, qui abbiamo un'agenzia che diamo è fondamentale. Un messaggio: è sbagliato fare la pipì in piscina, non si fa. È un segno di inciviltà. È un segno di inciviltà. Beh, no, di non rispetto, insomma, non va bene. Perché comunque, soprattutto in quelle pubbliche, perché poi dopo ci fanno il bagno tutti, non è giusto. No, sono quelle private, infatti, lo faccio. Ma che c'entra quelle private? Bravo, nell'idromassaggio privato. Brava, sono in quelle lì. Allora, di queste ville Ryan Lochte sarà pure bravissimo, il campione americano, quello che ha vinto un sacco di medaglie, però insomma, dice di essersi liberato perché nel cloro c'è qualcosa che ti fa andare automaticamente. Ma che sta raccontando? Sì, no, vabbè, è vero che l'acqua poi stimola, però voglio dire, se può uno può anche trattenersi, Lo sai, Parenzo? Parliamo di cose serie. Sì, parliamo di cose serie. Per esempio, mi avete seguito una settimana settimana per questa intervista tra aerei, voli. No, ma infatti io ho una domanda seria, ce l'ho subito per la signora Marini. Sì. Bravo. Che peraltro apprezzo, ma se, per la sua seria veramente, dimmi tutto. La... Per la sua bellezza, la sua intelligenza. Vabbè, adesso forza. Devi fare subito il lecchino, le solite cose. Grazie. Ha visto, le hanno mai chiesto di candidarsi, che so, gli amici del PDL alle elezioni? Ma perché provi alle PDL? Tu la vuoi scrivere al PDL in automatico? No, scusa. Vabbè, guarda, guarda, ti dico, la politica è qualcosa di molto serio e quindi non è il fatto di essere comunque una persona popolare, amata dalle persone. Ma te l'hanno chiesto? Te l'hanno chiesto? Sì, in passato sì, mi è stato chiesto, però per fare politica bisogna prepararsi. Diciamo che, ma anche alle ultime elezioni te l'hanno chiesto? Sì, no, sì. No, adesso no. Oltretutto poi l'Italia è comunque in una situazione abbastanza delicata, per cui veramente ci vogliono persone competenti e non, sinceramente, neanche se non ti senti in grado, preparandomi giorno e notte, potrei mai sentire. Ma, beh, magari, senti, ecco, c'è anche la signora Minetti, c'è anche la signora Minetti. Fammi finire però la frase, perché se mi fai le domande e non mi fai dare risposte, e chi c'è, i radioascoltatori, che sicuramente saranno numerosi in quest'Italia caliente, bollente, non capiscono niente. Dici, allora, che fa pure rima, hai visto? Vabbè, allora guarda, sicuramente è importante quando hai la popolarità prendere, magari ricoprire un ruolo, ecco, mi piacerebbe diventare ambasciatrice dell'ONU, ricoprire dei ruoli per cui puoi, tra virgolette, usare la tua popolarità per attirare l'attenzione su cause importanti. Però scusa, perché cosa l'ONU ti dovrebbe, perché l'ONU ti dovrebbe fare ambasciatrice? No, scusami. No, vabbè, io ti dico in generale, detto con tutto il rispetto, io comunque aiuto sempre quando posso, mi rendo utile, aiuto degli istituti diversi. Sì. Sia l'AMRI, di cui sono madrina testimonial, sia la prodicistica, per cui faccio, organizzo con Matteo Marzotto, loro organizzano, io do sempre la mia adesione delle serate dove raccolgono i fondi. Cioè, io penso che quando è la popolarità è giusto, devi spenderti per gli altri, agli altri, perché certo, hai comunque in tutti una i modi fortuna che hai il dovere di dividere ed è per questo, che hai promosso una linea di sex toys, per esempio. No, No, questo non c'entra niente, perché vedi, caro, dai, è una battuta, radio, è vero che la radio è anche ritmo e saltare e ironizzare, viva l'ironia, perché se non ci fosse appunto, l'ironia, dai, molto spesso non si finirebbe neanche saremmo la morti, saremmo morti. Per me, allora, il segreto di questo periodo, la chiave del successo è ridiamoci su, ecco anche sulla discesa in campo di Berlusconi, tutto sul serio, veramente, tra le notizie che uno accendi la televisione e se ne sente di ogni, comunque c'è un pessimismo generale, cosmico, ma non il solo italiano, mondiale. Per cui che non aiuta. Quindi, senti, ma del ritorno di Berlusconi, che ne pensi, per esempio? Tu che sei stato. Io penso che comunque lui abbia fatto tanto, . E il suo governo comunque non ha nel periodo in cui appunto il periodo in cui lui è stato al governo e la situazione era abbastanza tumultuosa, non c'è tumultuosa. Stata, secondo me, poi la possibilità. Ma tu lo rivoteresti? Lo rivoteresti? Non lo so, dici, dilla bisogna tutta, vedere il programma politico, sai, oggi bisogna anche capire. Sicuramente è uscito di scena con una forzatura, cioè con una non allora insomma sei rimasta berlusconiana, allora, diciamo la verità, su. No, allora fammi finire il concetto. È il popolo che decide. Le persone, i politici, i nostri leader, il Presidente del Consiglio, in un paese democratico vengono eletti dal popolo. Però adesso non è che ci possiamo prendere il pippone. Che porta nel bene o nel male, sbagliando o facendo giù. Non c'è dubbio. Senti, però mi segnalano, cara Valeria, che... No, è bello invece, Valeria Marini, che sia la Costituzione, secondo me, i giovani... No, la lettura della Costituzione, dovremmo inventare questa cosa qui, la lettura della Costituzione da parte di Valeria Marini, sarebbe una cosa meravigliosa. Non mi pare né presuntuosa, io sono altro che Zagrebelsky, qui saremmo al top. Io sono ignorante, ma sono una settata di sapere, no, cioè, ma per, io me, per me c'è Valeria, sempre da imparare, grazie a Dio ho una mamma molto colta e molto attenta e che è molto presente, che con cui mi confronto quotidianamente, che c'entra la mamma, altrimenti io, a me piace un po' vivere, anche ripeto, sorriderci sopra e comunque andare avanti. Qualcuno mi dice cioè, scusa Valeria, che tu hai sempre il bicchiere mezzo pieno, certo, non mezzo vuoto. Questo è stato un pochino un pochino, diciamo, la caratteristica dei governi Berlusconi, che, credimi, però l'ottimismo aiuta. Cioè, l'Italia è sempre stato un paese dove gli italiani hanno sempre avuto un grande entusiasmo, l'entusiasmo aiuta a costruire. Guarda, non che comunque sarebbe... Valeria, tu saresti perfetta per fare politica, eh? Sei saresti perfetta. Attacchi dei pipponi pazzeschi. L'economia è lo sviluppo, l'economia no. L'economia non ce la faccio. È un ingranaggio che se tu non lo blocchi o non gli dai il motore, l'olio, la benzina per potersi muovere, allora diventa, e questo pessimismo di questo periodo cosmico, ha giocato a sfavore, per cui gli imprenditori non investono più, non c'è dubbio. Si è fermato, diciamo, un pochino il meccanismo. Marini meno Stiglitz, solo in Italia questo, cioè, non vediamo. Allora, facciamo una cosa, noi siamo un paese di nazionalisti. Tutto ciò che viene dall'estero non teniamo presente che tutto il mondo ama l'Italia, ama gli italiani, ama tutto ciò che è made in Italy. Dai, ma siete due zanzare, è impossibile, Vale. Ma stai attaccando un pippone pazzesco. Che manca professor Bacciago, scusa. Italiani, riposatevi, ritemperatevi, perché ci rifaremo. Scusa un attimo, ma tra l'altro, a proposito di crisi, a chi mi segnala un amico, hai dichiarato che tu la crisi non la senti, prima dicevi. Non è vero. Ma no, come no? No, allora, ma assolutamente, ma io sono un cittadino italiano, al di là di essere una donna di spettacolo, ti dico. Ma come vanno i sex toys? A proposito di imprenditori, i sex toys. Guarda, quella è una, fa parte di un'attività. Ma come vanno? Vanno alla grande mia collezione, certo. Seduzioni Diamond. Ma come vanno? Come vanno? Si vendono o no? Vanno bene, io ho aperto una piattaforma. Siamo contenti. Ho fatto aprire una piattaforma e-commerce per fare gli acquisti online. Ma come vanno? Li compra la gente? Per dare la possibilità a tutti di fare gli acquisti. Ma la gente, gli italiani, la crisi la sentono oppure se ne fottono e comprano noi i gingilli? Italiani la crisi la sentiamo, noi mi ci metto dentro. Però quando devono comprare, abbiamo capito. Scusami Valeria, questo è un tema molto importante invece, quindi non sovrapponiamoci. Qual è? Io adesso vorrei offrirmi per testarli questi oggetti. Ma no, non c'è bisogno che ti offri, non ti preoccupare. No, voglio proprio testarli e capirne la qualità, perché io voglio capire la qualità delle cose. Sì. Ma qual è l'oggetto? Lo spiego subito, la sfera erotica è una sfera che fa parte della nostra vita. Ma nessuno lo mette in dubbio. Non dobbiamo avere tabù. Ma figura, noi qui tabù. Allora, scusi, signora Zingale, su un attimo che abbiamo la pubblicità. A voi vi servirebbero... Mi piacerebbe diventare ambasciatrice dell'ONU, ricoprire dei ruoli per cui puoi, tra virgolette, usare la tua popolarità per attirare l'attenzione su cause importanti. La luna ci vuole spalpare, per colpa dell'euro non puoi svalutare, noi vogliamo tornare a stampare. Sei ancora a casa, Evo? Gran finale della Zanzara con Valeria Marini in collegamento da non so dove, da Roma forse. Ciao, da casa sua. Sì, appena tornata dalla Cina pure. Sì, Valeria, esatto. Marini, la crisi economica la sento nell'aria ma non mi ha toccato. Intervista a chi dell'11 giugno? La crisi economica c'è in tutto il mondo, la sentiamo tutti. Ma però lei è stata toccata di meno. Le maniche va avanti. Certo, non c'è dubbio. Ma guardi che anch'io sono nella stessa situazione, ma ha toccato poco, che devo fare? Tocca a tutti, chi più chi meno. L'ottimismo, ti ripeto, quello che secondo me è venuto a mancare tutti questi mesi, questo periodo, è l'ottimismo. Ma tiriamoci su un attimo. Sì. No, serve, perché poi comunque lei consiglia di usare questi sex toys, insomma, consiglia. No, per questo non c'entra niente con l'ottimismo. Beh, come no? È una grande fare il furbo. Qual è l'oggetto più venduto, cara? Guarda, lo dica apertamente, qui è la radio, è la radio di Confindustria. L'oggetto più venduto è la mia collezione jeans, che funziona, che sta adesso facciamo pubblicità alla collezione non jeans. Non è pubblicità, a parte che mentre parlavo mi ha inserito una pubblicità, quindi ho tutti i diritti di fare la pubblicità, ma non è pubblicità. quella la pagano, però è diverso. Il sex toy. Vabbè. No, il sex toy, ma sto scherzando. la famosa magliettina a baci stellari, perché vedi tutto ciò che è stellare, cioè, degli oggetti, guarda, funzionano tutti, quelli classici, vibratore, che poi voglio dire il vibratore anche può essere usato per la doccia, per levare, per levare anche durante il bagno i dolori della schiena, le cose. Beh, adesso, adesso per levare i dolori della schiena, voglio dire, mia madre, signora Marini, mia madre ha 70 anni, se le do, se mi trova in casa, o anche gli oli profumati. Ma secondo lei uno usa il vibratore per farsi il massaggio alla schiena? C'è la Marina, vabbè, può essere, perché no? Ma tu sei, sei indietro. Scusi, signora Marini, lei è a favore dei matrimoni omosex, dei matrimoni tra gay? Assolutamente. Immagino di sì, no? Della libertà, la sfera sessuale è una sfera assolutamente. Ma lei è mai stata con una donna? Una persona, È mai stata con una donna? No. No, non le piacciono. Sicura? Ma cosa, a parte questo non c'entra niente col matrimonio. No, ma così, ma certo. Assolutamente per la libertà delle persone. Cioè, se due persone, l'amore non ha confini. Se due persone dello stesso sesso si amano, si vogliono sposare, sposarsi, perché impedirselo? È una loro scelta. Brava, bravissima. Ha mai avuto lei? Noi siamo d'accordo, noi siamo d'accordo, siamo d'accordissimo su quello, dica però a quelli del centrodestra, perché questi sono un po' indietro, cioè, siamo un po' indietro da questo punto di vista, siamo molto indietro. Ma non è solo fanno i libertini, fanno i libertini e, e lei sa a chi mi riferisco, eh? No, non facciamo allusioni. Beh, o parli chiaramente con me, o parli parole chiare. Beh, Berlusconi fa il libertino e poi insomma... Ma guarda, io Berlusconi lo giudico come non lo giudico nei suoi fatti privati, perché sono cose sue private. Non lo so, e non, ma lei ne capisce? Oltretutto non crede a tutti i pettegoletti, no, perché poi è facile cercarsi di fare farci pubblicità alle spalle di un uomo importante. Ma infatti lei io le lo capisce. Giudico per quello che ha fatto, ha costruito tanto nella vita, ha dato da lavoro a tante persone, ha costruito un'azienda enorme, ha costruito un impero, quello non c'è dubbio, ha dato da lavoro da lavoro a tantissime persone. Quando uno fa un'azienda appunto, quindi guardiamo anche il lato positivo, perché un po' è il vizio di noi italiani è quello poi dopo di guardare solo gli aspetti. Comunque lo sai che io l'ho promossa a editorialista, il gossip, lei ci ha vissuto per una vita. È una trasmissione di gossip, non anche, credo. Anche. Siete una trasmissione, visto che si chiama La Zanzara, pungente, che fa ironia sui fatti. Sulla politica, tutto. Soprattutto, sulla politica, sulla politica. La politica in questo momento è in fase di... deve trovare un assetto. Ma Monti le piace, il signor Monti? Guarda, la figura di Monti è una figura di Monti, abbastanza severa, che severa, non per lui ma per la situazione in cui si è trovata, si è trovato il nostro paese, ha messo una sorta si è creata una situazione di diciamo quel famoso pessimismo di cui parlavamo prima, Le tasse da pagare, quello non è le pessimismo, persone, quello. Le persone non noi italiani paghiamo tante tasse, siamo il paese questo che paga più tasse al mondo, non c'è dubbio, credetemi, le paghiamo tutti tasse, le e fin troppe, perché persone che non arrivano a fine mese, o che persone che hanno perso il lavoro, che non possono andare in vacanza, e questo non è una cosa lei bella. Dove va in vacanza? Ma non è certo colpa di Monti. Dove va in vacanza? È entrato in una situazione di difficoltà creata però non dal governo Berlusconi, perché era la stessa situazione che c'era nei governi precedenti, e la situazione dell'Italia deriva, ce la trasciniamo dalla Prima Repubblica, perché non Onorevole è mai stato Marini. Se non cambi il sistema, se non metti ordine al sistema... Comunque lei è perfetta, lei è perfetta per andare in Parlamento. Secondo me per andare in Parlamento lei è perfetta. Attacca dei pipponi... No, io sono un animale da palcoscenico. Appunto, guardi che... Dividere col pubblico l'ottimismo e guardare le cose belle. Poi certo, ovviamente... Ma guardi che da palcoscenico... Mi sveglio alle 6:30, mi sveglio alle 6:30. Ma la politica è un grande palcoscenico. Valeria Marini, la ringrazio e l'abbraccio. Non è un grande palcoscenico, la politica è una cosa seria. Lo so. E io penso, è una cosa seria che... che regola le nostre le vite di noi italiani. Su questo non c'è dubbio. L'abbraccio fortissimo, a presto. Grazie. Che senso, mi state già... Ma scusa, io volevo dirti invece che ho appena dire? Finito di fare un importantissimo film. E perché non me l'hai detto? Fare... Grazia Cucinotta. Ma me lo devi dire prima. Grandissima attrice italiana, la prima coproduzione italiana. Allora... Ed ecco, questa è una cosa importante. Quando esce questo film? Quando esce questo film? Uscirà a San Valentino, perché è una bellissima commedia dell'amore e della speranza. A San Valentino? Manca una vita. Ma con manca... l'amore si scalano le montagne, si ricostruisce tutto. Ma sei fidanzata adesso? Sì, sono fidanzata, sì. Quanti anni ha? Quanti anni ha? Dice, chi ti sopporta? Non lo so, l'età non è... Non l'ultima volta che hai fatto l'amore quando è stato? È un toy boy? È un toy boy? No, non è un toy boy, basta, non sono del palo. I toy boy ci sono altre cose, no, i toy boy non Ma quando hai fatto l'amore l'ultima volta? Ma che ti frega a te di quando hai fatto l'amore l'ultima volta? Non te lo dico, indovina. Mamma mia, che fastidio. Ieri sera. No, ieri non era in viaggio. In viaggio no, ieri, stamattina. Indovina, beh guarda, quando mi vesto con le mie collezioni, niente, sei irresistibile. Ciao, grazie. Ciao, ciao, buona estate a tutti, davvero. Ciao. Speriamo bacio, che la ripresa dell'estate siamo tutti più ottimisti. Baci stellari, ciao. Ciao, Daniele da Milano. Baci Daniele. Stellari. Cosa incredibile. Daniele da Milano. Daniele, dica. Pronto, buongiorno. Vada. Buonasera, anzi. Allora, niente, volevo riprendere un attimino il discorso... sull'omosessualità, sull'omofobia che sentivo un attimino prima e dare un attimino quella che può essere la mia testimonianza da cristiano credente. Sì. Il punto di vista cristiano, sì. Sentivo prima che si... Io voglio sapere se Scilipoti va in vacanza, però scusi, dai, chiamatemi Scilipoti, ultima puntata della Zanzara, se Scilipoti va in vacanza. Almeno abbia questo... rispetto, per favore, mi faccia parlare. Daniele, scusi, però qui non è che uno è sempre... È una cosa serissima. Ma qual è la cosa serissima? Qual è? Lei vuole aver rispetto per gli omosessuali, abbia rispetto anche per un cristiano che vuole dare un suo parere. La sua esperienza di vita che può essere seria. No, guardi adesso, però abbia pazienza. Per favore. Alle 20 e 26 l'esperienza di vita no. L'esperienza no, di non vita è no. L'esperienza di vita. Io voglio darle la visuale cristiana che ho sentito. Un attimo, prima, la visuale cristiana. Mi faccia parlare, per favore. Un attimo. Cili? Aspetta, speriamo che risponda. Sì. Ma che ha da fare tanto? E che ne so. Un po'. Non fare lo stupido, dai. No, infatti l'ultima puntata, figuriamoci. Amico mio, se risponde. Scili? Gargascili? Squilla estero, però. No, che estero? Ma quando mai? Italianissimo. E come? Sicuro? Pronto? Mimmo? Mimmo? Sì? La Zanzara, come stai? Ciao! Oh, caro, come stai? Volevamo sapere, in conclusione, dove vai in vacanza? Dove vai in vacanza? In vacanza io spero di andarci per una settimana a casa mia per riposarmi. Ma ecco. Come, solo una settimana fai? Ecco, dimmi dove che sto lontano, va? Ma Parenzo, perché devi... Mi farebbe piacere che tu invece venissi a trovarmi. Ma per carità! Per rendermi conto di quanto è bella la mia famiglia. Bravo, bravo, per diglielo. Per salutare i miei figli, Gabriele e Arianna. Bravo. Perché sono due splendidi figli che io... occupandomi di politica dedico molto poco tempo e spero di recuperare in queste due settimane. Bravo. Non era una settimana, adesso sono diventate due. Due settimane perché faccio fino al 9 al 10 sarò a Roma, perché l'8 sì. e il 9 dovrebbe chiudere il Parlamento, poi ho due riunioni. Dunque gli spostamenti di Scilipoti sono questi, fino all'8 9 a Roma, poi? Poi a casa mia, in Sicilia. 22-23. Esattamente la località? La località precisamente è Terme Vigliatore, provincia di Messina. Benissimo. E io sarò a Bergamo Alta invece. Ma perché? Ma guarda, dovresti andare a trovare Scilipoti, così conosci i figli. Conosci... Pentiti di quello che hai fatto quest'anno, pentiti almeno in queste settimane. Pentiti. Ma io non mi devo pentire di niente, pentiti. Perché io ho fatto il lavoro da parlamentare, ho abbandonato la professione per difendere gente come te, che io stimo e voglio bene, e anche i cittadini italiani. Ma ci vogliamo bene tutti, ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Io non ho ancora capito se è una settimana o due, le ferie sono una settimana o due. Prima hai detto una settimana, poi sono diventate due. Una settimana, perché le ferie saranno una settimana, perché la settimana che sarò sicuramente in ferie è quella a cavallo del 15. Solito pasticcione, visto dai. Che ci sono, visto ma che sono due o una delle settimane? Non sono pasticcione, ma visto che ci sono, ci saranno le elezioni in Sicilia, ma la settimana prima, cioè dire quando tornerò da Roma, mi dedicherò a girare la Sicilia per incontrare delle persone. Non occuparti di quello anche, sono già abbastanza danni. Ma guarda, io l'unica cosa che mi dovrei occupare è come farti rinsavire e far sì che gente mediocre che fanno i giornalisti come te non ci siano più. Non ci siano più. Bravo, bravo, picchia! Sul territorio nazionale. Buone vacanze, Mimmo! Grazie, buone vacanze, a presto! Un bacio, ciao, a presto! Ciao! Ciao a tutti, abbiamo chiuso! Ciao, Squinti! Come faccio agosto senza le vostre punture? Come faccio? Poi mi date anche l'incubo di non si sa settembre, no? La zanzara? Voglio farmi pungere dalla zanzara, voglio la battaglia, ogni sera la battaglia voglio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lei lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.